è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Sì o un no? E se dovesse esserci un no, che cosa succede? Chiude Fiat? Non facciamo l'investimento a Mirafiori. Non fate, quindi cosa vuol dire che chiudete Mirafiori? Non facciamo l'investimento a Mirafiori, questo avrà le sue conseguenze sociali, le gestiremo da lunedì sera in poi, no? Ma hai sentito che sintesi efficace, che chiarezza, che limpidezza, che testa, direi. Caro Parenzo, parli dei colibrì o dell'affare Marchione? Ma Marchione, l'hai sentito? Non è che ha risposto come tutti quelli del passato che dicevano se il referendum va male che fate? Ma vedremo poi, eccetera. No, concerteremo. No, investimento. Ma infatti la cosa singolare di tutta la vicenda è che Marchione sta dimostrando di essere molto più avanti rispetto alla politica, e la politica non controlla più nulla, cioè la più grande dimostrazione, questa non è una critica a Marchione, è una, semplicemente una stupida e brutale analisi. Marchione sta dimostrando che è più avanti rispetto alla politica, che può fare quello che gli pare ma legittimamente, e la politica non conta più nulla in questo paese. Vabbè, adesso, alcune cose che riguardano le relazioni industriali nulla. Non è che siano decise dalla politica. Detto non questo, hai ragione. La politica, noi abbiamo rinunciato a noi, cioè la politica ha rinunciato a gestire le questioni industriali. Senti cosa gli dice la Camusso oggi. Marchione insulta ogni giorno il paese, addirittura. Sentiamo. È un governo che fa così ed è così tifoso che non ha il coraggio di vedere che quando l'amministratore delegato della Fiat insulta ogni giorno il nostro paese e le sue possibilità, e come si fa e si costruisce un rapporto con una grande politica industriale, non offende solo i cittadini e i lavoratori di questo paese, ma in realtà dice della qualità del governare e delle risposte che vengono date. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Novitas sui colibrì, caro Parenzo, no. Ci sono novità, sì. Ogni giorno una novità. E che vuoi fare? Così, la novità è quasi peggio del Mago Hotel, ma stavi sì, è una vicenda incredibile, incresciosa. No, perché incresciosa, addirittura incresciosa. No. È paradigmatica di un paese che non funziona. La novità te la dico dopo. Intanto continuiamo su Marchionne facendoti ascoltare Caruso. Te lo ricordi Caruso? Sì. Come no, il leader di No Global di Napoli. Esatto, questa mattina durante Agorà, trasmissione su Rai 3 condotta da Andrea Vianello, dice ma quella stella a 5 punte, ma non bisogna fare tragedie, in fin dei conti è una cosa che risale all'antichità. Non so cosa ha detto, ma quale antichità, cosa c'entra? Sentiamo. Posso spezzare una lancia a favore della stella a 5 punte? Beh, difficile, Caruso. No, stiamo molto attento. Faccio presente che sono 150 anni che il simbolo della stella rossa attraversa i 5 continenti, come voleva rappresentare quel simbolo. Ma io non capisco perché si vuole fare questa riduzione dentro questo schematismo ideologico, per cui io lo capisco poi fin troppo bene sui lavoratori della l'interesse Fiat. Qual è? È l'interesse cercare di criminalizzare uno slogan che fra l'altro è tutto innocente, che gli hanno detto a Marchione fottiti, non gli hanno manco detto appunto brucia di vino. La cosa curiosa è che lo slogan di Marchione fottiti è una cosa così, no? Detto con tutto il rispetto, come al solito, no? Alla Borghezio, detto con tutto il rispetto per le... Ma è una stella a 5 punte, voglio dire, non c'è più limite veramente alla follia, però. Marchione fottiti, non è che lo volevano bruciare, no? Ma Marchione fottiti, vabbè, questo può essere. Marchione fottiti, ma come, legato a Marchione fottiti è una cosa moderata, è uno slogan. Ma no, ma quello, sai, come dire, è una pasquinata. Fosse stato solo quello, vabbè, è un'invettiva, non è che gli ha detto vai a morire ammazzato, fottiti, vabbè, okay. Beh, ma quello legato alla stella 5 ponte, sempre detto con tutto il rispetto, fottiti, quello è terrorismo, quello è terrorismo, cioè, ho capito, ma insomma non è che no, una cosa è legata all'altra, una cosa sia slegata dall'altra, insomma. Lo slogan di per sé, vabbè, se sai quante scritte sui muri si, sì, certo, vabbè, chiaro. Noia, sì, poi chissà chi l'ha fatto, certo, però la cioè, punto è inquietante, voglio dire, che ci sia, che ci sia un grumo di estremismo nei confronti di questa vicenda, grumo, insomma, in realtà non è nemmeno troppo piccolo poi questo grumo, un'area di estremismo intorno alla vicenda di Marchionne, che si alimenta dalla vicenda di Marchionne, che viene alimentata anche da alcune parole pronunciate da persone rispettabilissime che spesso sono nei talk show, non c'è ombra di dubbio. Cioè, qui Marchionne è sulla stessa strada di Berlusconi, cioè si è creato un odio nei confronti di Marchionne, no, molto di in più. Questi mesi molto non so più. Se molto di più, perché ma qui perché Marchionne fa, e quello è il governo del fare, ma fa poco, molto di più, è molto più incisivo, cioè oggi in questo paese, sì, che sia più incisivo Marchionne non c'è dubbio, ma che si sia creato un odio pazzesco nei confronti di Marchionne, che viene dipinto come il male assoluto, quello che viola la Costituzione, i diritti, questo è chiaro, e può portare anche a quelle cose che abbiamo visto a Torino, o no? Come no, certo, ma i due sindacalisti, diciamo, che davanti ai cancelli della Fiat se ne dicono di tutti i colori, anche quello è sintomatico di una dialettica sindacale che ormai è esplosa ai massimi livelli, no? Il sindacalista della FIOM e quello della FIMCISL, che sì, discutono animatamente fino ad arrivare quasi alle mani, beh, è sintomatico di un clima veramente esplosivo che c'è in questi giorni in fabbrica. Allora, andiamo a sentire Rizzo, te lo ricordi, il mitico Rizzo? Come no? Marco non Rizzo? Non è nemmeno più nella Federazione di Sinistra, è a sinistra della Federazione di Sinistra. Il Kojak della grandissimo politica. Chi sta con Marchionne non è di sinistra. Vabbè, però ce lo potevamo aspettare da Rizzo, via. Non è sbagliato. Via. Diciamo al Partito Democratico che chi sta con Marchionne non è di sinistra. Mai più alleanze, lo ricordiamo a Fassino a Torino, con chi non sta con i lavoratori. E vabbè, poi con chi si deve alleare Rizzo ancora non si è capito, perché non è né con Vendola, figuriamoci, lo considera esattamente alla stessa stregua del Partito Democratico, c'è cioè una sorta di traditore dell'ideale di sinistra, sì, né con la Federazione di Sinistra, perché ha litigato personalmente con tutti quelli che fanno parte di questa federazione, e fa parte di un partito, adesso non ricordo neppure il nome perché sono tanti, che è, diciamo, alla sinistra prima del trotskista dell'altro giorno, prima di, come si chiamava, Ferrando, compagno Ferrando, che voleva, ricordiamo, fare i scioperi generali di tutto il mondo, dappertutto, tutto il mondo, anzi voleva dividere il lavoro dei metalmeccanici in tutto il mondo, cioè si devono mettere d'accordo tutte le aziende metalmeccaniche che lavorano sulle macchine in tutto il mondo per dare lavoro a tutti gli operai metalmeccanici in tutto il mondo con un accordo generale. Vabbè. Bloccare tutto, gatto selvaggio per dei mesi, bloccare il paese. Lola, ho fatto le pazzie. E beh, a proposito di pazzie, c'è Renato Brunetta che dice: Marchionne mi copia sull'assenteismo. E beh, Brunetta no, però si vuole prendere anche i meriti di Marchionne. Brunetta mattino 5 questa mattina da Belpietro. Le norme sull'assenteismo nel pubblico impiego sono più forti di quelle previste da Marchionne, e i risultati si sono visti: meno 35% di assenteismo nel settore pubblico. Marchionne sta copiando Brunetta. È una cosa incredibile perché è vero che Brunetta e Marchionne hanno lo stesso piglio, no? Si può dire dal punto di vista così dell'interventismo, della decisione, del decisionismo, eccetera. Brunetta mi sa che ultimamente mi è un po' invidioso, no? Per questa. Scherzando, battuta. Certo, cioè, si trova davanti questo uomo che riesce a essere forse più incisivo, come dire, a intervenire di più, ha più potere di un ministro. Quel paradosso di tutta questa vicenda, alla fine, è questa qui. Sì, però la politica in teoria non è che può intervenire più di tanto nelle relazioni sindacali, può intervenire sulla flessibilità del lavoro, sulle leggi e tutto. Un ruolo centrale. Noi abbiamo un ministero che si chiama Ministero dello Sviluppo Economico, cosa sviluppa? Vabbè, adesso lascia perdere la polemica sul Ministero dello Sviluppo Economico. Cosa sta sviluppando il Ministero dello Sviluppo? No, ma su questo non c'è dubbio. Qual è il ruolo? I colibrì. No. Disse l'uccellino al cacciatore: sono l'unico rimasto in tutto il mondo. Allora, la notizia in realtà è di ieri sera. E c'è una contraddizione rispetto a quello che veniva da Trieste, cioè il ministro dell'ambiente Prestigiacomo sostiene che i colibrì resteranno a Trieste, non vanno più in Olanda. Attenzione, ti devi arrendere, caro Parenzo. No, no, no. Sì, poi ho scoperto un'altra cosa. In realtà la battaglia sui colibrì, cioè sul ruolo dei colibrì, l'importanza dei colibrì, perché devono restare in Italia, perché servono all'Amazzonia, al mondo, all'ambiente, è molto trasversale. Molto molto trasversale. Ho recuperato addirittura un Beppe Grillo del 7 febbraio del 2008 scatenato sui colibrì, scatenato. Senti, questo ti rafforza, in realtà ti rafforza della tua idea anticolibrì. Assolutamente. Via Grillo. Se possiamo dargli una mano con poco, non servono, credo, ecco, grosse cose. Se non ti danno il grano loro, me lo dici, mi chiami, vengo, facciamo un'altra serata, li sputaniamo da mangiare. Con il caso ci prendiamo dei colibrì un po' più grossi, quelli qua da anni. Comunque vi faccio tutti gli auguri più belli, specialmente a lui, che possa coronare questo successo. Poi domenica da Giletti c'è stato un appello comune da parte di tutti, Giletti, Margherita Hack, Sgarbi, tutti uniti da un appello sui colibrì. Giletti ha fatto l'appello per i colibrì. Giletti, appello dalla TV italiana, senti. Vabbè, tutto finito. Noi diciamo dalla televisione italiana che devono rimanere in Italia e dovrà essere così. Va bene. Hai sentito là che è un fiore all'occhiello. No, vabbè. La vicenda è davvero assume dei toni scandalosi, Perché scandalosi? Ma lascia perdere quelli che vogliono difendere. Io voglio difendere gli uccelli di casa nostra, in questo sono un leghista. Cioè padroni a casa nostra. Ma questa lasciamolo dire, è una stronzata. No, io voglio difendere le peppole, ad esempio. Voglio tutelare gli uccelli di casa nostra. Questi colibri vengono qui, rubano il lavoro agli uccelli italiani, mettono incinta gli uccelli italiani, fanno figli in Italia, questi colibri, e invece stiano al loro paese. E noi dobbiamo difendere gli uccelli italiani, le peppole italiane, perché nessuno difende le peppole, ad esempio? Siamo tutti a Palazzo, perché magari non sono a rischio estinzione. Sono a rischio estinzione anche le peppole. Le Dici, peppole anche, sono anche quelle, anche a rischio estinzione. Vabbè. Sul nome Italia partiamo innanzitutto con il solito nostro Mino Reitano, fantastico, via. Sembra essere passato questo nome per il nuovo PDL, caro Parenzo. Ma è così? Non lo so, sembra, poi non ci sono ufficialità. Cosa. Perché lo chiedi a me? Perché credi che abbia qualche notizia in più riguardo al mondo PDL? Vuoi... No, per carità, No. Ma perché siccome sono atterrato da poco a Roma, non ho visto... Qualcuno dice, per esempio, esponenti dell'ITV, Belisario dice che è un'appropriazione indebita o comunque non si può perché Italia... riguarda tutti gli italiani, non può essere il simbolo di un partito, ma insomma, allora poteva valere anche per Forza Italia questo sì, concetto. Ma lo dissero, eh? Sì, lo dissero. Onida, per esempio, si è espresso su questo. Il costituzionista Onida è anche ex concorrente per le primarie a sindaco di Milano del Partito Democratico, via. Dire che ho qualche perplessità su questa cosa, idea di chiamare Italia un partito, perché un partito per definizione è una parte. L'Italia invece è l'Italia, è di tutti. Appropriarsi da parte di un partito del nome Italia mi sembrerebbe, usando una immagine, un po' un'appropriazione indebita. Un'appropriazione indebita addirittura. È stato presidente della Corte Costituzionale Onida. Vabbè, ho capito, adesso non vorrai no, far investire la Corte Costituzionale o i giudici di una cosa di questo tipo, appropriazione indebita. No, i giudici si occupino dei colibrì, ecco. E non di queste vicende. Quindi. Un ascoltatore mi segnala dal Gazzettino di oggi: i colibrì vanno a Venezia, terza ipotesi, restano a Trieste, vanno in Olanda o addirittura trasportati a Venezia, magari in un centro in regola, non come quello di Trieste che pare abbia diversi problemi. Traffico. A Venezia ci sono i piccioni. Traffico. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. I must della zanzara, direi Vittorio Feltri. Se Berlusconi al Quirinale, beh, sarà pieno di escort con i corazzieri che inseguono le donne in tutti i corridoi. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Io non mi auguro che sia Berlusconi, perché immaginatevi cosa succederebbe. Perché le escort al Quirinale sarebbe... Cioè tu ipotizzi i corazzieri nudi che rincorrono le corazzieri. Sì, ci farebbero un film lì, Body, De Sica. Devo dire che oggi Feltri, in un'intervista a Italia Oggi, dice: beh, io ogni tanto queste battute, queste cose mi vengono al volo, me ne pento dopo 5 minuti. Anche le cose che dico su Sallusti le dico, forse le penso, forse no, mi pento al volo. Le interviste vanno sempre prese con le molle, non è che vero, lui era il buono della coppia, anche secondo me. Vespa, però, un altro dei must di questa settimana, ve lo voglio fare riascoltare perché ce l'ho qui in testo, mi volevo farlo riascoltare anche ieri. Le palle sul tavolo, Vespa. Berlusconi, se campa ancora 2 anni politicamente, deve avere il coraggio di mettere le palle sul tavolo e di fare le grandi riforme, altrimenti, siccome il problema della quarta settimana non ce l'ha, è meglio che se ne vada. O fa veramente la rivoluzione, o fa veramente le riforme, o se no deve dare senso al suo governo. Polemiche sul Borghezio, l'Abruzzo peso morto, l'audio inascoltabile da Klaus Davi. E però addirittura il PDL che dice attraverso Quagliariello offende la cultura della Lega, la cultura di governo della Lega, eccetera eccetera. Lui smentisce in realtà di aver detto questo, parlava del Sud in generale, almeno secondo lui. In realtà è una mezza, sai, Klaus Davi è molto bravo certe volte, no, a diffondere le notizie che sono sempre confermate poi dal testo, però alcune volte magari un po' no. Alla fine le risposte dei politici sono le domande di Klaus Davi spesso. Sì, sono le domande, lui fa una domanda, quello dice sì e lui sì, attribuisce. E lui rimette il virgolettato alla domanda che aveva messo lui. Vabbè, ma vuol dire, se uno risponde sì, non no, è... No, ma è bravissimo, ma certo, cioè, non c'è dubbio, guarda, giusto per spiegare. Ma... 800 0024, andiamo, Alberto da Bologna, buonasera. Buonasera, salve, buonasera dottor Cruciani e dottor Parenzo. Dica. Niente, io... chiedo scusa perché sono appena uscito dal lavoro, sto correndo in centro a Bologna che devo fare degli acquisti, sì. E vi ho sentito dire che no, se ci vuole anche dire dove va stasera completiamo tutto, no, insomma, con chi mangia eccetera, con chi esce, no mi chiudo il negozio per quello che volevo, vi ho sentito dire che sarebbero terroristi le persone che avrebbero scritto con lo spray Marchione Fotti ti ha disegnato la stella 5. Mai detto una cosa di questo tipo. Ma prima ho sentito un intervento del dottor Parenzo che ha detto io ho detto che sono terroristi, potenziali terroristi, quelli che hanno fatto la stella 5 punte, non quelli che hanno scritto. Quelli che hanno fatto la stella 5 punte, certo, è un'evocazione di un periodo in cui i terroristi facevano le stelle 5 punte e sparavano, certo. Non c'è dubbio. Allora, anche potenzialmente inneggiano, scusi un attimo, Alberto, inneggiano ad un simbolo che è stato il simbolo di un gruppo terrorista, del gruppo terrorista per eccellenza in Italia. Assolutamente, sono perfettamente. Poi non è, credo non sia un reato fare la stella a 5 punte sul muro. No, perché lo spessore del cioè, forse sì, non lo so. L'idea e comunque il modo di agire delle Brigate Rosse, cioè nulla a che a vedere con questa bambinata, con questa bravata, probabilmente fatta da una persona di 20-25 anni. Lei dice che, le Brigate Rosse erano una roba più seria, non ho capito. Assolutamente, diciamo che avevano alzato l'asticella, cioè lavoravano ad un livello molto più alto. Cioè, lei se viene qua in centro Bologna, delle stelle a 5 punte, ne trova quante ne vuole. Eppure non credo che qua si viva in un clima di guerriglia. No, cioè, no, però Alberto, messaggi. Non è che esistono stelle a 5 punte più nobili perché scritte in un certo modo o fatte chissà in quali anni, e stelle a 5 punti invece un po' meno gravi perché oggi non c'è quell'estremismo brigatista che c'era loro, magari non c'è lo stesso clima sociale. Grazie. Mattia da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera anche a Parenzo. Buonasera. Volevo intervenire sui trochilidi. Che sono i colibrì. Sì. Allora, ieri sera stavo andando a trovare un mio amico che si chiama Marcello, che è molto appassionato di uccelli. Sì. Ecco. E allora? E praticamente mi ha spiegato che il colibrì è importantissimo, mi stia a sentire, per l'impollinazione di una varietà enorme di flora nelle regioni in cui dimora abitualmente. Quindi la domanda che mi sorge spontanea verso Parenzo, qual è? Ma visto che l'uccellino è importante anche da un punto di vista scientifico, vero, sì. Il problema di Parenzo col colibrì è un problema dimensionale? Cioè è troppo piccolino secondo Parenzo? apprezzo la punta ironica sua, non le dico che le propongo di fare un'ispezione perché non mi interessa, ma non mi abbasso su questo piano. Voglio dire, il tema di questo della difesa di questo uccello è un tema patetico, perché ci stiamo occupando di 80 colibrì, quando invece noi non ci occupiamo delle persone, ad esempio, perché se equipariamo i colibrì agli immigrati clandestini in questo paese, ad esempio... Questo che c'entra, no, però... No, c'entra, questo sono serio, non è ironico, cioè, noi vediamo un governo mobilitato... Vabbè, adesso non è mobilitato sui colibrì, dai, c'è stata una telefonata di Berlusconi da Arcore. Ho capito, ma parliamo di 80 uccelli, in tuta, quando era in tuta davanti a Sgarbi, che ha telefonato al centro di Trieste dicendo li salvo io i colibrì. Punto. Li salvo io i colibrì. Ma si pensasse agli uomini, alle persone, agli immigrati. Vabbè, che c'entra? Questa è una polemica ridicola. Okay. Pensasse anche alle persone, non è che pensa tutto il giorno ai colibrì, ha fatto una telefonata, dopodiché poi c'è la reazione di quello, il ministero, e poi ancora il centro di Trieste. E la ministra che dice che li vuole salvare, che sono importanti, li vogliono portare a Venezia, ma spendessero telefonate ed energie per vedere gli immigrati che vivono nei centri permanenti temporanei. Perché proprio gli immigrati? Perché proprio gli immigrati? Non ho capito, sei fissato perché sugli immigrati. Perché sono la parte più debole. Insomma, ci sono tante parti deboli nella società, non è per forza gli immigrati. No, parlare di uccelli stanno parlando. Da giorni si parla di 80 colibrì regalati da non si sa chi. Poi. Dal governo del Perù, forse anche dell'Ecuador. Silvio da Parma, buonasera. Silvio. Per salvare la foresta amazzonica. Com'è? Silvio, fino a... tocca a lei, più o meno. Rubo un secondo perché sono in una zona dove la radio non si sente, però fortunatamente sono al telefono, quindi ho potuto meno ascoltare. Meno male. No, volevo... un po' mi è passata, però ero un po' sobbalzato perché sul sedile, perché quando ha detto che Marchionne è un personaggio che ha chiarezza a differenza degli altri. No, io non ho detto in chiarezza in tutto. Ogni persona ha le proprie contraddizioni, il proprio tatticismo, le diplomazie del caso, e anche le contraddizioni, se vogliamo. Il punto fondamentale è che in quella frase lì che ho fatto sentire, Silvio, non è che ho detto che è un personaggio chiaro in assoluto. È normale che non è sempre così. Ho detto in quella frase, dicendo o così o pomì o sì, o niente investimento, è una frase molto chiara, o sbaglio? No, ma sono io, tra l'altro sono d'accordo. Non è che ho detto è chiaro rispetto agli altri. Ho detto che rispetto ad altri manager del passato, rispetto ad altri protagonisti del passato, mi sembra che sia un personaggio che vuole cambiare le cose, secondo me in senso positivo, secondo altri in senso negativo. No, diciamo che io non sono d'accordo che voglia cambiare le cose, ma sono d'accordo con... Beh, anche se non le vuole cambiare, nei fatti è così. Con la strada che vuole prendere. Però sono sobbalzato perché, essendo un personaggio privato e non pubblico, non c'è paragone. E soprattutto anche con il conto in banca. Lei tenga presente che chi ha il conto in banca abbastanza sostenuto è più chiaro degli altri, questa è una logica. Ma adesso non è vero quello che lei dice, perché ci sono fior di manager che guadagnano un sacco di soldi che sono invece dei conservatori da questo punto di vista, per cui non è proprio così. E poi la polemica, francamente, sullo stipendio di Marchionne, qualcuno ha calcolato, comprese le stock option, a un certo punto paragonabile a oltre 6.000 operai, a quello di oltre 6.000 operai, mi sembra un qualcosa di stucchevole. Cosa c'entra quanto guadagna Marchionne? È normale che guadagni tanti soldi, non mi sembra un argomento di discussione. Grazie. Marco da Reggio Emilia. Buonasera. Dica. Sono abbastanza preoccupato per il modo con cui vengono trattati questi aspetti. Insomma, guardi, al di là dei contenuti del negoziato, che io non conosco e nessuno penso l'ha descritto nei miei particolari, o almeno l'ha descritto per farlo capire la gente. Sì, allora? Lo stile con cui si comunica. Ma qual è lo stile di chi? Di Marchionne? Ne parliamo dopo il giornale radio. Marco, anche con lei, 800 24 00 24, notiziario, a dopo. Siamo qui, caro Parenzo, come stai? Bene, bene, bene, romano purtroppo, ma bene. In collegamento da Roma, quanto mi manchi qui nello studio di Viale Monterosa a Milano. Non dirlo a me, non dirlo 800 24 00 24. Prima di presentarti un ospite che è sempre ospite che ha gradito qua, la Zanzara, che è stato protagonista nelle ultime ore. Marchionne? No, ospite, magari ospite Marchionne qui sarebbe fantastico, ma ci proveremo, ci proveremo. Un ospite gradito è stato protagonista però di una polemica furibonda, perché alcune sue frasi hanno scatenato reazioni anche all'interno dello stesso centrodestra, che lo ha accusato: non puoi dire cose di questo tipo, gli abruzzesi, sai già di chi sto parlando, sai già. Comunque, titoli del TG3. Duello sulla Fiat, Camusso attacca Marchionne, insulta ogni giorno il paese, la replica: voglio solo cambiarlo, chi perde accetti la sconfitta. A due giorni del referendum sale la tensione tra gli operai di Mirafiori, liti tra gli schieramenti del sì e del no e qualcuno piange. Slitta a fine mese la mozione di sfiducia a Bondi, si tratta sul federalismo, il PD critico con Casini, Bersani ospite al TG3. I giudici della Consulta discutono la costituzionalità della norma salva premier, giovedì il verdetto, ma la Corte sembra divisa. Alemanno avvia le consultazioni per la nuova giunta, apertura ai centristi che declinano, l'opposizione e il sindaco fallito pensa alla fuga. La sparatoria su un treno nell'Egitto meridionale, ucciso un cristiano, più di 5 i feriti, attacco a 11 giorni della strage dei copti a Capodanno. Alto il tasso di diossina nella carne di maiale tedesca, l'allarme della Coldiretti: dalla Germania importiamo 13 milioni di cosci l'anno. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. E poi l'altro giorno ospite da Klaus Davi, vi facciamo sentire solo l'ultima parte, quella contesa, insomma avete capito, l'Abruzzo un peso morto. Non è mancanza di solidarietà, è semplicemente un sano realismo padano che ci ha fatto capire da tempo che questo, che questa parte del paese è un peso morto per noi. Onorevole Borghezio, che mi combina? Ma io parlo sempre chiaro, la voce mi esce dal cuore, spontanea. Cioè lei conferma, perché ieri ha smentito, ieri ha smentito. I padani pensano, ma anche di meridionali che vivono al nord e si sono padanizzati e che cioè? Quando vanno in vacanze a Chilo Paese tornano disgustatissimi per quello che vedono, usi e costumi ai quali si sentono ormai. Vabbè, questo entrati. In generale, d'accordo, può essere così, diciamo, secondo alcuni. Ma i sondaggi... ho capito, ma l'Abruzzo è un peso morto, l'Abruzzo, lei ha detto, è un peso morto. Ma l'Abruzzo fa parte del centro-sud e tutto questo centro, da Roma in giù è tutto un peso morto, parliamoci chiaro, quindi l'Abruzzo non fa eccezione. Adesso mi spiace che ci siano i parenti delle vittime del terremoto in mezzo a questo discorso, ma allora non si può più parlare di niente. Allora, se noi da questo punto di vista dobbiamo parlare sempre bene di tutti gli africani, perché in Africa c'è gente che muore di fame, ecco, e questo non mi impedisce al Parlamento europeo di dire che se c'è razzismo oggi è in Africa contro i bianchi, e io parlo chiaro. Scusi un attimo, Borghezio, che lei parli chiaro non c'è dubbio, però se uno dice l'Abruzzo è un peso morto deve portare perché si lamentano troppo, qual è il problema? Io ho detto l'Abruzzo sta ripetendo, minaccia di ripetere l'andazzo che è stato ciclico in Italia. Tutte le volte ci sono stati eventi emergenziali, tragedie, eccetera, sono state trasformate in decenni di assalto alla diligenza del denaro pubblico. Questo è storia, d'accordo. L'Irpinia, prima ancora la Sicilia, eccetera. Ho un pronipotino di un anno. Io non vorrei che quando compierà 50 anni fosse ancora chiamato a pagare le spese per il terremoto di Abruzzo, perché questo è quello che mi dice la storia. Ecco, ma che segnali ci sono che l'Abruzzo possa diventare un peso morto? Per ora non ci sono molti segnali, a parte le solite lamentele. Io ho detto che l'Abruzzo, come tutto il centro-sud, è un peso morto. Non è che ho attaccato l'Abruzzo. Ma questo è in generale, ho capito, però. Ma il voglio dire, il senso di umana solidarietà con la tragedia, detto con tutto il rispetto, però un peso morto, ho capito, però non mi non deve impedire di parlare con chiarezza, di dire il sud, il centro sud, con la sua scarsa propensione alla produttività, sì, e forte propensione all'assenteismo, sì, con la sua incultura del rapporto fra cittadino tutto, e ente, sì, pubblico, sì, con la propensione della sua classe politica, direi la stragrande maggioranza, a mediare in maniera pelosa il rapporto fra cittadini. Ma c'è anche una questione genetica, secondo lei, che riguarda no, il... No, io non ne ho mai fatto una questione. No, cioè, nel senso, gli abitanti del centro. L'interpretazione, c'è tutta una biblioteca sulle motivazioni di questa arretratezza del sud, c'è tutta un'enorme biblioteca, ma a me non me ne frega niente della biblioteca. Io parlo con i cittadini del nord che, come me, hanno le scatole piene di questa situazione. E questo d'accordo, ma ricevo, l'Abruzzo, perché... Io ricevo una miriade di SMS di solidarietà e il 40% di quelli che mi sostengono sul sito del Corriere della Sera, sì, non mica gli elettori della Lega sono il 10, se qui c'è un 40 che vabbè, adesso non si possono fare vuol dire che ci allarghiamo allora Borghezio, però le leggo una cosa: UDC è lui il vero peso morto, Quagliariello, che pure fa parte della coalizione insieme alla Lega del centrodestra, offende la cultura di governo della Lega. Ma loro sono abituati, sa, quando uno parla che dice a Quagliariello, che è abruzzese, come risponde anche abruzzese, in realtà non è manco abruzzese, quando questa classe politica trasversale meridionale pure Quagliariello fa parte centro-destra e centro-sinistra, io non è che faccia tante differenze, è uguale, c'è uguale. C'è una classe politica trasversale, c'è un'intesa quando si tratta di tutelare i loro usi e costumi, le loro cattive diciamo abitudini clientelari e parassitarie, sono tutti uniti, anche Quagliariello uniti. Dunque un parassita, cioè, più o meno. Ma la classe politica meridionale è fortemente parassitaria, anche incapace, inetta e parassitaria, e sono espressione di quella piccola borghesia fancazzista che ha trovato nell'impiego pubblico e nelle cariche pubbliche una grande occasione per non fare un tubo dal mattino alla sera e vivere alle spalle del nord che lavora. Hai capito Parenzo? Hai capito Parenzo? Siamo tutti così, non è tutti fingono di scandalizzarsi, ma io quando esco di casa sento gente che mi dà le pacche sulla spalla e mi dice bravo Borghezio, vado avanti lei che può parlare. E questa è la realtà. Però se qualcuno si offende, pazienza. Io sopravvivo. Se qualcuno si incazza, un attimo, Borghezio. Ieri a Lanza, lei ha detto. Fischiettando con la coscienza pulita e la soddisfazione di aver fatto magari poche cose importanti nella vita politica, ma sempre parlato chiaro. Sempre detto col massimo rispetto, però l'Abruzzo è un peso morto. Sempre col massimo rispetto, però è un peso morto. Col massimo rispetto anche l'Abruzzo, che forse è il diciamo nella storia rappresenta certamente non l'esempio peggiore, ecco, perché però, gli esempi peggiori li abbiamo avuti in altre situazioni, però Belice, Irpinia, non vorrei che il Brabruzzo fosse la terza tappa. E quali sono i segnali di questo? Perché per dire un peso morto non basta dire subito, siccome fa parte del centro-sud. Le autorità abruzzesi, sì, che mi scaricano ogni genere di contumelia addosso, perché non rispondono a questa semplice domanda, aperte virgolette? Le grandi aziende del nord specializzate negli interventi antisismici che vincono gli appalti nelle gare mondiali, sì, dove ci sono eventi sismici nel Centro America, eccetera, sì, in tutto il mondo, in Giappone, perché hanno un livello tecnologico altissimo nelle costruzioni, allora, nelle infrastrutture, perché non sono state nemmeno chiamate alla ricostruzione della Bruzza? No, come perché no? Hanno come fatto no? Tutto umma, come sempre fanno. Ma no, Borghezio, come vabbè, sempre fanno da Roma in giù. Ci sono aziende del Trentino, eccetera, che hanno lavorato. Tutte cricche del solito umma, del solito magna. Ma non è vero, ci sono aziende del nord. Ci sono fiordi. Neanche una sola delle nostre imprese è stata chiamata. Ma non chiamata. È vero, Borghezio, ci sono fiordi. Che è vero, ci sono fiordi imprese del nord che hanno lavorato in Abruzzo. Non mi dica cosa che non sono. Sto parlando delle imprese specializzate nell'antisismico. Vabbè, quello è un altro discorso, che ne so io. In quello magari sono più. Lo so io, perché sono tutte al nord e sono state tutte escluse. Non le hanno nemmeno chiamate a presentare delle offerte. Ma che sono queste geremiadi contro l'abitudine, le geremiadi della classe politica del sud? Continuare a vedere la sceneggiata delle carrette, quelli che vanno, portano le macerie, quelli... I veneti avrebbero costruito mezza città. Ah, questo è interessante. Si sarebbero rimboccati le mani. Beh, l'esempio che abbiamo avuto dal Veneto di Zaia, che è un esempio, un'icona, sì, della ricostruzione prima si sono rimboccate le maniche e hanno pulito e poi hanno chiesto i soldi. Ma guardi, ma lo scandalo, scusi, adesso sì. ne parliamo sempre di Abruzzo, ma lo scandalo delle vacanze di Natale, in cui i militari incolpevoli devono andare a pulire la puntini puntini, e non voglio usare la parola merda, dalle strade di Napoli, che qualcuno ha riversato a Napoli con il cosiddetto senso civico, e i signori spazzini pagati con i denari pubblici stavano a casa tranquilli con la panza al sole a festeggiare mettendosi in mutua. Questo effettivamente è o non è il solito sud? Questo sì. Però scusi Borghezio, un'ultima cosa, si fermi un attimo. Parezzo, dove sei innanzitutto? Stai ascoltando, intervieni ogni tanto. No, bazzica il nord, l'ho bazzicato. No, ma è di Padova, è di Padova. Sa che la gente la pensa come me. Borghezio non è un pazzo isolato, Borghezio è quello che dice ad alta voce quello che tutto il nord. Senta Borghezio, però mi dicono... Io me la sarei presa, no, scusami Borghezio, io me la sarei presa con il governo sul caso dell'Abruzzo, però, perché il tuo amico Berlusca è venuto giù lì in Abruzzo a inaugurare le case con Bruno Vespa, ha aperto i frigoriferi, ha dato i letti, sembrava che nel frigorifero ci fosse anche dentro da mangiare, e poi a un certo punto, come direbbe lei Borghezio, se ne è fottuto e se ne è tornato su a Milano, a Roma. Ma probabilmente, probabilmente, voglio dire, sarà stato anche forse poco ben impressionato da comportamento politici, la classe politica ha colto l'occasione per spolpare vivo il paese. Ma cioè, aspetti adesso, spolpare vivo il paese, non è che gli abruzzesi, secondo lei gli abruzzesi hanno spolpato vivo il paese? No, la classe, ho detto la classe politica. La classe politica abruzzese? Io solo guardandoli in faccia, sentendo come si approcciano al problema, tutte queste sceneggiate, queste geremie, io non ho visto nessuno... Scusi, il popolo delle carriole, come lo definisce lei? Il popolo delle carriole, come lo definisce? Il popolo delle carriole è un popolo, diciamo così, di persone non avvedute. Io voglio usare e misurare i termini. No, non misuri i termini. Vorrebbe usare dei termini diversi. Ecco, usi dei termini diversi, Borghezio. Io uso i termini diversi e le dico che il popolo delle carriole è un popolo che nel Veneto li avrebbero presi a pernacchie, perché la gente le avrebbe detto, guardate, intanto anziché fare sceneggiate davanti alle televisioni con le carriole, se abbiamo voglia di lavorare energia per spostare le carriole, facciamo qualche cosa per pulire, per riordinare, per alleggerire il lavoro di quelli che sono venuti da fuori. In Veneto avrebbero ricostruito già tutto, mezza città, Veneto, mezza L'Aquila. In Veneto, ma anche in Piemonte, sa. Quando c'è stata l'alluvione a Torino. E dunque di chi è la colpa? Scusi, Borghezio. Centinaia di camicie verdi dal Veneto, centinaia. Vabbè, adesso lasci perdere le camicie verdi, però chi è la colpa del fatto che in Abruzzo ancora stanno a carte 48, almeno per quello che riguarda L'Aquila, il centro della... In primis la colpa è della classe politica dell'Abruzzo. Poi, secondis, in parte anche della popolazione. Della popolazione. Della parte della popolazione che cede alle lusinghe e al modus operandi di quella classe. Benissimo. E all'esempio negativo di quella classe politica. Io non ho nessuna fiducia nelle classi politiche del centro. Ma questo sarà capito. 0,0. Grazie. Di niente, Padania libera. Beh, ancora questa Padania libera. Indipendenza, autodeterminazione. Mi ero salvato come gli indiani d'America. Finiamo nelle riserve anche noi. Liberiamoci dal sud parassitario e fancazzista. Vabbè, ho capito. Arrivederci. Borsa. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Siamo qui, caro Parenzo, abbiamo sentito Mario Borghezio. Non retrocedere di un millimetro in realtà, peso molto. Sì, ma va bene, l'ho detto rispettando sempre i terremotati, le famiglie dei terremotati, però poi. Però intanto gli ho dato un'altra caracca. Antonio da Piacenza, 800 24 00 24. Non c'è. Gabriele da Bologna. Sì, pronto, buonasera. Dica. Volevo così riparare il discorso che con cui avete aperto la trasmissione relativamente a Marchionne, ma volevo sapere cosa ne pensa lei. In un paese civile è normale che bisogna arrivare a un referendum per capire il futuro di una fabbrica e comunque di quello che sta succedendo. Cioè, è normale per lei questo? Ma guardi, sono procedure all'interno di una fabbrica. E poi naturalmente uno gli investimenti li dovrebbe fare a prescindere dalla volontà degli operai, cioè questo passaggio che Marchionne vuole utilizzare anche in questo modo. Se c'è il consenso della maggioranza dei lavoratori, si va avanti con l'investimento, altrimenti non c'è il consenso della maggioranza dei lavoratori, si cambia strada. È anche un gioco delle parti, per carità. Ci sono questi riti sindacali italiani. Adesso credo che il voto su un piano, sulla firma, eccetera, sia qualcosa che non c'è solo in Italia, naturalmente, che è presente in molte realtà europee e mondiali. Detto questo, forse gli investimenti su una fabbrica potrebbero prescindere anche dal consenso all'interno di una fabbrica stessa, eh? Cioè il tipo di investimento che si fa, o alcune scelte potrebbero prescindere. È chiaro che è qualcosa che fa comodo a entrambi, diciamo, testare il consenso all'interno di una fabbrica. Però c'è qualcosa di strano in quello che ha detto Marchionne, eh? Cioè? Perché a sentire i titoli del TG3 che tu poco fa hai riproposto, Marchionne avrebbe detto: chi perde accetti la sconfitta. Eh beh, è normale che sia così o no? Sì. No, certo, ma in verità l'unico che perde non è lui, ma è il sindacato, qualsiasi sia il risultato, perché lui qualsiasi sia il risultato invece vince comunque, perché se vince il sì, lui rimane lì come ha imposto lui la questione, se vince il no, lui comunque vince perché prendeva in Canada. Quindi quando uno dice chi perde accetti la sconfitta, in verità è una cosa tutta rivolta non su di sé, ma solo sul sindacato è la palla, cioè solo sui lavoratori. Sì, certo che dal punto di vista di Marchionne anche... Sì, anche non perde niente. Sì, però c'è una sconfitta... È una partita che lui non perde, beh, comunque vada a finire. Forse dal punto di vista, come dire, dell'investimento e in generale della Fiat, forse no, però dal punto di vista dell'immagine non c'è dubbio. Uno che si presenta firmando con i sindacati, tra virgolette moderati, chiamiamoli così anche se non è la terminologia adatta, un piano, dopodiché quel piano viene sconfessato dai lavoratori stessi, non è un bel punto a favore di Marchionne, su questo non c'è no, il minimo dubbio. Chi frega lui comunque sì che... ma personalmente no, in generale per il management della Fiat, per l'immagine della Fiat non è una bella cosa, perché comunque la posizione di Marchionne viene, come evidente, condivisa anche dalla proprietà, dagli azionisti, eccetera. Beh, eccetera. Questo certo, ma così come l'ha impostata lui non può altro che vincere questa battaglia. Questo alla fine può essere lui ha il coltello dalla parte del manico, qualsiasi cosa accada lui comunque vince, perché se vincono i no lui prende e se ne va in Canada. Se vincono i sì, lui comunque ha vinto e ha avuto un vantaggio, perché nella trattativa ha portato a casa un risultato per la sua azienda. Quindi vince comunque. Questo è il tema vero di fondo. Mm. Eugenio Dall'Aquila, buonasera. Buonasera. Dica. Io, innanzitutto, buonasera a Cruciani e a Parenzo. Volevo interloquire con l'onorevole Borghezio, che forse non è mai... è venuto ad Aquila e non sa che... Non credo che sia sceso giù... No, non credo proprio, ma mi sembra che non è neanche informato. C'è un deputato europeo che fa una serie di folklore. Lo invitiamo e le facciamo vedere all'onorevole Borghezio che l'89% delle commesse che sono state fatte qui ad Aquila hanno preso il nord-est. Cioè, aziende del nord-est, ma guardi che Eugenio, adesso io non sapevo le cifre esatte, credo proprio che lei abbia ragione. Cioè... Sì, sì, no, però siccome il onorevole Borghezio ieri ci ha detto dei fannulloni, la classe politica, cioè la classe politica è quella che abbiamo noi, quella che ci meritiamo. E lui deve dire che... Al di là delle valutazioni sulla classe politica, oggi stasera ha detto Borghezio, se uno va a vedere, lui in realtà si riferiva a un settore particolare che era quello dell'antisismica, non ho capito bene, no, dell'antisismica, no, poi non è che gli appalti sono quelli solo quelli sull'antisismica, ce ne sono un sacco di altre aziende, forse sì, sì, avrà avuto qualche input da manager o da proprietari di industrie o di fabbriche, adesso, non ho la minima idea, guardi. Il problema più grosso è che noi non abbiamo mai... detto che non è stato fatto nulla, anzi lo Stato qui ha fatto tanto, i cittadini hanno fatto tantissimo, perché noi siamo stati, come dire, fermi, siamo rimasti qui in Abruzzo e specialmente ad Aquila. Io parlo quando si parla del terremoto, si parla del terremoto dell'Aquila, perché l'Aquila ha avuto dei problemi. L'Abruzzo, sì, no, l'Abruzzo, certo, certo. Allora, quindi stiamo parlando di cose abbastanza, ma mi stupisce che l'onorevole Borghezio fa del folklore. Ma per un motivo semplicissimo, perché poi loro sono abituati a sparare queste cose. La politica è un'altra cosa. I nostri amministratori, nonostante io posso anche dire che gli amministratori non vanno bene, ma hanno moltissime difficoltà nell'amministrare questo tipo di calamità, perché la protezione civile è venuta in un anno, ha fatto quello che poteva fare, devo dire, certo, senza regole, in deroga a tutto si faceva. Adesso siamo rientrati nella normalità e c'è un piano regolatore, ci sono le licenze edilizie, quindi per la ricostruzione, nonostante io sia uno dei partecipanti al famoso movimento delle carriole, c'è solo delle problematiche, ma le stiamo affrontando, come cittadini. Certo, noi non ci mettiamo, non abbiamo il megafono come l'onorevole Borghezio a dire quello che stiamo facendo. I cittadini si stanno muovendo e sono attrezzati. Noi abbiamo comunque ricostruito anche la parte, diciamo, morale di questa. Va bene, Eugenio, ma infatti non è che noi condividiamo le parole di Borghezio, l'abbiamo ospitato per chiarire le parole, quelle che aveva, quello che aveva detto ieri a Klaus Davi. Grazie. Allora, caro Parenzo, il gruppo di Futuro Libertà, per volontà di Bocchino, per richiesta del suo capogruppo Bocchino alla Camera, ha chiesto di spostarsi di posto, cioè di mettersi in una zona diversa, più a sinistra, diciamo, dell'emiciclo, no? Tanto per capirci, insomma, di staccarsi un po' dal centrodestra. Dunque, anche fisicamente. Questo è giusto. Anche fisicamente di segnalare, di, no, di raffigurare, segnare nel, nel, beh, è giusto, è che, di fotografare, è giusto, quello che è avvenuto. A proposito di Italia, Casini, no, ieri a 8:30, la gente smaliziata sa che si vota per Berlusconi, non per l'Italia. La gente è maliziata, se vede sotto Italia Berlusconi capisce che si vota più Berlusconi che per Italia. Sì, pensa che sia abbastanza smaliziata. Beh, insomma, se metto Italia Berlusconi, secondo lei la gente cosa pensa? E però pare che gli piaccia, sì, la parola Italia, o comunque il, la possibilità che il PDL si possa chiamare Italia. A me il nome Italia piace molto, ma non perché Berlusconi chiama o mette nel logo del suo partito Italia, perché io amo l'Italia, perché le, sono patriottico, anche prima di Forza Italia. Mi piaceva anche prima, mi è sempre piaciuto, amo, ecco, il tricolore e provo orgoglio quando c'è l'inno nazionale. Ecco, ma chi... Va bene, a proposito, no, della polemica prima innescata da Caruso, che dice la stella a 5 punte, ma insomma che sarà mai, in realtà è un simbolo non so che, storico, sì, e comunque eccetera. C'era contro di lui, sempre a Omnibus, se non sbaglio, anzi a Agorà, Osvaldo Napoli, PDL, sentite. Caruso, lei doveva, no, ancora nascere a fare la storia di un paese, però certamente io mi scusi, anche il suo comportamento alla Camera ha fatto danni, quello di mettere nelle piante alcuni passaggi, non ho paura di dirlo. Che ha messo nelle piante? Beh, se lo faccia dire da lui, non ho capito, quando metteva nelle piante. Si lamenta del fatto che durante il dibattito parlamentare. Ecco, lo dica lei. Lei si permetteva il lusso di denigrare il Parlamento andando a mettere qualche droga all'interno del... No, abbia pazienza di marijuana. Condivido, bravo. Questo se va a controllare, adesso stanno fiorendo. Bravo, io sono profondamente a disagio. Voglio dire questo. Se il rispetto delle istituzioni aver messo qualche grammo di marijuana nelle piante all'interno di quello che dovrebbe rappresentare il massimo dell'istituzione. Vado a controllare. Napoli a un certo punto dice, ricorda a tutti noi, a chi ascoltava in quel momento la trasmissione, che Caruso fu protagonista di quella vicenda delle piante di marijuana all'interno del Parlamento, in realtà poi non era così. Vabbè, insomma, no, non è stato un gesto particolarmente non è un gesto violento, meritevole di... Ma si è visto di peggio, dai, scusami, se risentiamo il nostro amico Nino Strano con Mortadella, cioè voglio dire, no, dal punto di vista simbolico, mettere in una piantina semi di marijuana aumenta, come dice lui oggi, un gesto un divertismone. Sì, no, ma per carità. Luca da Modena, buonasera. Buonasera, dica. Per la trasmissione. Niente, volevo fare una considerazione sul Marchionne, il fatto che si parli sempre di Marchionne in termini di esaltazione per quello che ha fatto dal punto di vista finanziario con le operazioni che stanno creando valore aggiunto in borsa, la fusione con Chrysler, dal punto di vista politico con lo sconvolgimento che sta creando nelle contrattazioni con i lavoratori, allora... Però poi in realtà non si parla di ciò che la Fiat fa, cioè nel senso che la Fiat è un'industria che produce auto e il prodotto della Fiat è purtroppo è debole, nessuno... No, veramente se Marchionne... ne parla, ne scrivono in tanti, poco, non è vero che non se ne parla. Poco, secondo me, cioè Marchionne tutto sommato negli ultimi anni sul prodotto non ha creato niente di più di quello che hanno fatto i suoi predecessori. Io se fossi un lavoratore Fiat sarei più preoccupato di quello che non si sta facendo in termini di sviluppo del prodotto, prospettive proprio industriali sul prodotto rispetto ai concorrenti più qualificati rispetto a tutto il resto, perché se io sono un operaio devo produrre auto e mi fanno fare tante casse integrazioni perché il prodotto non si vende, non vedo prospettive su un prodotto che a tutti gli effetti è debolissimo, con dei marchi sul mercato sono debolissimi, sarei abbastanza preoccupato da questo punto di vista. No, ma certamente poi, questo qua è un argomento importante. Poi, Luca, grazie. Vuole concludere, vuole dire qualcos'altro? No, tutto qua, insomma, nel senso che... Vabbè, lei dice ci si preoccupa più di queste vicende che riguardano comunque importanti, il piano per Mirafiori, il referendum, eccetera, e non poi della questione centrale che è i nuovi modelli, quello che fa Marchionne dal punto di vista produttivo. Si vendono poche auto soprattutto. Insomma, le due cose però le due cose non possono essere però tenute distinte. Grazie. 800 24 00 24. Dove andiamo? Direi Paolo Flores d'Arcais. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Direttore di Micromega. E firmatore anche di un appello insieme ad altre persone, non so come chiamarli, intellettuali, scrittori, politici, no, politici forse no, insomma, contro Marchionne, posso dire così, d'Arcais, o no? Sì, lo può dire tranquillamente. Ecco, lei di Marchionne che opinione ha? Come lo definisce? In estrema sintesi. So che sfondo una porta aperta, però insomma mi devo una definizione sintetica di Marchionne, secondo lei, uno che viola la Costituzione, un dittatore, un liberista proprio alla massima potenza, al cubo, mi dia una definizione. Un pessimo manager. Ma perché un pessimo manager adesso? Perché vede, un manager dell'automobile si vede... se è capace o non è capace, se sa mettere in piedi una squadra capace di innovare, di inventare nuovi prodotti, sì, di saperli vendere. Quello che per esempio hanno fatto alcune case automobilistiche europee in questi ultimi anni, in Germania e in Francia. Se invece un manager l'unica cosa che sa fare è tagliare, e francamente per tagliare basta un barbiere, non c'è bisogno di essere dei grandi manager. Vabbè, ecco, Flores, all'inizio la Fiat, all'inizio della vicenda Marchionne, dell'epopea Marchionne, chiamiamola così, c'erano stati anche nuovi modelli, eccetera. Adesso forse siamo in un attimo di stanca, magari dopo ci saranno. Senta, guardiamo alle cifre. Guardiamo come si è risollevata la Volkswagen, guardiamo altre marche leader in Europa, l'unica che va male, che non sa innovare, che sa solo tagliare sull'operaio, sul tenore di vita e sui diritti dell'operaio, mentre in Germania gli operai metalmeccanici che fanno lo stesso lavoro di quelli della Fiat guadagnano il doppio. Vabbè, è una storia diversa, condizioni diverse, non si possono fare solo paragoni di questo tipo. Non si possono fare quando fa comodo, ma in genere si dice in continuazione c'è la globalizzazione, bisogna adattarsi. Allora, i manager seri delle altre case europee si sono adattati nel modo serio, cioè puntando sull'innovazione tecnologica e sul prodotto. Ma quello lo fa anche la Fiat, immagino. Sapendo che se si diminuisce il potere d'acquisto dei lavoratori, si diminuiscono i loro diritti, eccetera, poi si vendono anche meno macchine, perché le macchine chi le compra? Però scusi Flores, qui si tratta, come diceva prima Parenzo anche non oggi in un'altra trasmissione, qui si tratta di un investimento, cioè si investe, si dà lavoro, poi certo c'è il problema dei modelli, quello è un problema industriale che magari nei prossimi anni vedremo dei meravigliosi modelli che venderanno, non lo so, però insomma qui si dà lavoro, cioè c'è l'ipotesi, la chiusura, e dall'altra parte invece un contratto diverso, diverso che dà lavoro, si esce dalla casa integrazione, non capisco. Lei può anche dire che non capisce, ma il discorso invece è molto semplice. Per quale motivo l'alternativa deve essere o investo in questo modo togliendovi dei diritti elementari? Che ma no, non si tolgono i diritti elementari. Lei però vuole che io le do le risposte o si fa le domande e si dà le risposte. No, sto replicando la sua risposta. Lei ha detto Marchionne toglie diritti elementari. Non è vero, non è vero. Allora, io non è che è obbligatorio intervistare me, ma se vuole intervistare me, ho capito. Perché si tolgono i diritti? Se vuole fare un comizio, non sto facendo perché comizio. Mi ha chiamato. No, scusi, non litighiamo perché non è il caso. Allora, lei ha detto che Marchionne toglie i diritti elementari. Io l'ho un attimo interrotta dicendo: ma come si fa a dire che toglie i diritti elementari? Si fa? Basta leggere l'accordo. Quando si stabilì, no, ma non la volevo interrompere. È un modo di interloquire. Comunque, è un modo non... di impedire di fare un ragionamento basato sui fatti. Benissimo, i fatti sarebbero. Evidentemente lei, come tanti altri giornalisti, tende a nascondere all'opinione pubblica. Basta leggere il contratto. Sì. E nella parte finale c'è esplicita la clausola che chiunque scioperasse contro qualsiasi aspetto, anche singolo, di questo contratto, sarebbe immediatamente licenziato per giusta causa. Ma lei sa benissimo. Lo vede? Lei fa giornalismo senza innanzitutto documentarsi sui fatti. Non è così. Lo vada a leggere, lo prenda e lo legga ai suoi ascoltatori. È esattamente così. Tant'è vero che sarebbe una violazione della Costituzione, questa qua. Ed è stato scritto da un sacco di persone. Adesso le faccio ascoltare su questo la replica di Brunetta, per esempio. Un attimo solo. Ma la prego, Brunetta. Vabbè, ho capito. Brunetta magari di relazioni sindacali. Brunetta è un deficiente. Fa propaganda per il governo. Fa propaganda per il governo. Magari dice una cosa ragionevole. Qualche volta dice La questione è di fatto: c'è o non c'è questa clausola? C'è, basta andare a prendere il testo e a leggere l'ultima pagina. Allora non possiamo continuare a discutere su ipotesi inventate. Comunque, secondo lei, Marchionne vuole conculcare il diritto di sciopero? Ma certo, perché oltretutto il costo del lavoro settore. Scusi, Flores. I cui operai dovranno votare incide direttamente solo per il 7% del costo del prodotto finito. Questa non è una cosa che ho detto io, autorevoli economisti l'hanno scritta. Però restiamo sul diritto di sciopero. Lei capisce bene che spremere gli operai quando si ridurrà di una piccola parte quel 7% di costo significa che l'aspetto economico non è quello che interessa a Marchionne. Marchionne vuole far passare un principio e non ci può essere contestazione in fabbrica, né individuale né organizzata. Lei sa benissimo, bisogna credere, obbedire, produrre e combattere. È vietato combattere, è obbligatorio semplicemente produrre nella obbedienza cieca e assoluta. Questa è la religione di Marchionne. Gli interessa. Ma in Italia non è stato. Non si può limitare il diritto di sciopero per legge. Lei ha capito che non è possibile fare una cosa di questo tipo. Napolitano, si rivolterebbero tutte le autorità. Infatti si aprirà immediatamente quando verrà approvato questo accordo un contenzioso legale che arriverà fino alla Corte Costituzionale, perché la giurisprudenza da moltissimi anni a questa parte ha stabilito che il diritto di sciopero è un diritto individuale che si realizza collettivamente e quindi non può. È invalido un accordo. Ho capito, un attimo solo, mi faccia mandare Brunetta sul diritto di sciopero. Via. La FIOM, cioè la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici che aderiscono alla CGIL, sostiene che così si abolisce il diritto di sciopero i diritti. Ma questa è una stupidaggine. Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione e dalle leggi. Questo dice Brunetta. Brunetta naturalmente dice una ovvietà, ma questo contratto, questo diktat di Marchionne, sì, stabilisce negli ultimi due paragrafi esattamente quello che non può stabilire, perché lo vada a riprendere comunque, insomma, Se lo vada a riprendere, l'unica limitazione, sì, che oggi la legge consente è che in alcuni settori pubblici per attività che sono considerate irrinunciabili, soprattutto nel campo della sanità, eccetera, bisogna dare un preavviso di 2 settimane, eccetera, senza il quale lo sciopero diventa illegittimo. Per tutto il resto, qualsiasi tipo di sciopero, anche proclamato immediatamente, è legale. Questo dicta di Marchionne lo vuole togliere. Senta, Flores, la stella a 5 punte, che ne pensa lei? Ma la stella a 5 punte è una assurdità che naturalmente non ha nulla a che fare con, cioè, non è un segnale d'allarme di qualcosa. No, non è un segnale d'allarme di qualcosa, no. Ma penso proprio di no. Una stella a 5 punte la può disegnare chiunque, se ci fosse un clima d'odio nei confronti di Marchionne, secondo lei? No, c'è un clima d'odio nei confronti degli operai che Marchionne ha scatenato, perché quando si dice clima d'odio nei confronti degli operai, però devo dare la linea al giornale radio, torno subito con lei, Flores, non la voglio cassare né interrompere, ma abbiamo i nostri tempi. 800 24 00 24, i TG tra poco. Eccoci qui, sono le 20, che volevi dire? 800 24 00 24, Parezzo, che volevi dire a Flores? No, volevo dirvi questo, che fermo restando che le sue valutazioni su Marchionne, anche sull'operato del management della Fiat, mi trovano sostanzialmente d'accordo. Cioè, in che senso si trovano d'accordo? Scusa, non mi trova d'accordo mi trova d'accordo la parte di un uomo di industria. Vabbè, ho visto. È importante, almeno. Vabbè, ed è una valutazione che io condivido. Vabbè, poi? Però sulla parte invece del suo diritto a farlo, su questo non è chiaro che non si discute. Perché se fosse vero quello che dice Flores, questo dovrebbe intervenire. Dovete dire, tutti i giuristi di questo paese, che non tutti invece hanno firmato quell'appello che lui ha proposto. Il capo dello Stato dovrebbe essere il primo a dire le cose così non vanno, stiamo andando contro la Costituzione. E invece non è così. Non è così perché è una modulazione del diritto di sciopero, cosa che avviene in moltissimi settori. È già significativo, perché la modulazione del diritto di sciopero la può stabilire solo la legge, non un accordo aziendale imposto. Oltretutto, quando io ho detto che Marchionne semina odio contro gli operai, l'ho detto per un motivo molto semplice. Perché? Vi sembra un referendum vero quello che viene fatto con questa alternativa? O voti sì, o porto via la fabbrica, cioè o votate sì o in pratica vi licenzio. Quella è una consultazione interna. No, questo, scusate, il vocabolario italiano ha dei significati precisi per la parola. Una cosa di questo genere, cioè o mangi questa minestra o salti dalla finestra, in italiano non si chiama referendum, si chiama ricatto. No, ma il ricatto è un reato che ha delle... Ma infatti per questo ho parlato di odio verso gli operai. Questa è una forma di ricatto vero e proprio. Come andrebbe punita? Con l'intervento dei magistrati, magari? No, andrebbe punita con l'intervento della politica, come c'è stata in tutti gli altri paesi. In che modo, scusi? Non andrebbe punito, andrebbe impedito all'origine. E come si fa? Quella è un'azienda privata che Ma un'azienda privata non è che può fare quello che le pare. Ma come può intervenire la politica, secondo lei? Secondo lei come può intervenire? Esistono degli articoli della Costituzione che difendono la libertà d'impresa, a patto che ci sono una serie di clausole. Ho capito, secondo lei la politica come può intervenire, però non ho capito ancora concretamente. Ma può intervenire in un'infinità di modi, come è intervenuta in Germania e in Francia, dando degli incentivi in cambio di garanzie precise e di partecipazione dei sindacati al controllo sull'operato delle aziende. Vabbè, ma adesso non si parla più di incentivi, per cui è un altro discorso. No, gli incentivi in realtà in Italia ci sono lo stesso, perché mantenere gli operai in cassa integrazione facendoli guadagnare pochissimo. Beh, quello non riguarda solo la Fiat, lo sa. A spese della collettività, anziché dare incentivi con garanzia di occupazione, di mantenimento dei diritti e di controllo da parte dei sindacati sulla trasparenza delle scelte. Ma e quelli che hanno firmato? Quello che hanno fatto e quelli che hanno firmato? In Francia ha funzionato in Germania e in Francia. Solo in Italia si pretende la cura Marchionne. Scusi un attimo, che Flores. Privi di diritti. Questa è la realtà. Quelli che hanno firmato. Quelli che hanno firmato sono pazzi, sono gente che vuole sotterrare i diritti dei lavoratori. Che sono? Traditori, che sono? No, non sono pazzi, sono dei sindacati che fanno politica governativa anziché difendere gli interessi degli operai. Ma come no? I loro operai li difendono. Ho capito. Molti operai che pure sanno che questo diktat è indecente, voteranno sì, ma è normale, è comprensibile, perché se ti mettono una pistola alla tempia e ti dicono o così o muori di fame, quanti di noi avrebbero il coraggio di dire no, in nome della mia dignità preferisco morire di fame? Non lo so, a me sembra, non è un referendum, io resto convinto. È un diktat indecente perché è ricattatorio, sì. E in tutti gli altri paesi d'Europa, dei governi, non dei governi di sinistra, perché in Germania c'è la destra al governo, in Francia c'è la destra, ma non c'è la stessa situazione in cui si impedito. Partendo da situazioni, allora, la politica dovrebbe impedire a Marchionne di fare degli investimenti, di innovare, eccetera. Al contrario, di impedire che minacci di andarsene, di far sì che questi investimenti li debba fare comunque senza toccare i diritti dei lavoratori. Esattamente. Ma non come si toccano fatto i diritti, i diritti fondamentali dei lavoratori, continua, Flores, non si toccano. Senta, a parte il diritto di sciopero che viene toccato pesantemente, le istituzioni sanitarie europee hanno stabilito con una circolare che dovrebbe valere in tutti i paesi, che per difendere il minimo della sanità del lavoratore alla catena di montaggio dovrebbe esserci una pausa di 10 minuti ogni 50 ma il problema non saranno mica due minuti, non saranno mica due minuti la pausa, 5 minuti, ma non è quello. Certo, per lei e per me queste sono cose, noi lavoriamo tranquillamente in poltrona eccetera, ma per chi sta 8 ore alla catena, togliergli altri 10 minuti di pausa anziché fare, come dicono le istituzioni sanitarie europee, una pausa di 10 minuti ogni 50 minuti. Ma chi lo dice? Istituzione sanitaria europea? Significa minare la salute delle persone. Vabbè. Allora, queste sono le cose che andrebbero fatte. Allora, Marchionne viola pure la sanità, la salute delle persone. Ma io non capisco perché. Ma questi sono dei fatti. Non sono fatti, sono opinioni, Flores, adesso non scherziamo. Sono opinioni, non fatti. Abbia pazienza. È l'opinione delle istituzioni sanitarie europee. Vabbè, ho capito, le istituzioni sanitarie europee possono pure. Non è che si sono espresse contro Marchionne. Le norme stabilite dalle autorità sanitarie per cui certi vaccini sono obbligatori sono delle opinioni, se lei la mette così. Ma no, certo, difendere la salute è un'opinione, ma questi sono gli standard e i criteri europei. Dunque, allora, Marchionne rovina anche la salute degli operai, oltre a violare la Costituzione rovina pure la salute degli operai. Vabbè, ma certamente, mentre se fosse un manager saprebbe fare il manager, cioè puntare sull'innovazione, magari vuole puntare anche sull'innovazione, sulla creatività eccetera, come diceva prima l'altra persona che Parenzo, che parlava, sì, Parenzo. Ecco, perché non avevo bene. Allora? Non è un manager, è un finanziere, sta facendo giochi finanziari, perché tutto ma questo è legittimo, in realtà però, Flores, non è che sta distruggendo la Fiat e la sta ma facendo sta diventare. Ma sì, perché è la Chrysler che diventa. Ma quelle sono altri discorsi. Senta, Flores, se le voglio chiedere, almeno su questo, dunque, ha ragione cosa? Almeno su questo ha ragione Di Pietro e non Donati per andare al discorso dell'Italia dei valori. Ma è talmente evidente. Dunque, lei è Di Pietro, su questo è Di Pietrista. Ma su questo è Di Pietrista. È Di Pietro che su questo ha una posizione ragionevole. Assolutamente ragionevole. E su che cos'è che non ha posizioni ragionevoli? Sui. Ma, su tante cose. Sulla conduzione del suo partito a livello locale. Ecco, oggi no, sto scherzando. Oggi c'è anche un'altra notizia che riguarda il Molise, cioè 2-3 consiglieri non so dove, regionali addirittura, credo del Molise, passano dall'Italia dei Valori al PDL. Ecco, ma la ragione di tutte queste fughe dall'Italia dei Valori verso magari il PDL o verso altri partiti, qual è? La colpa di chi? Di Pietro, secondo lei? Ma l'ho già detto infinite volte. Me lo dica anche oggi. Di Pietro, che ha una politica giusta come linea politica e una gestione del partito a livello locale attraverso degli yes men, e gli yes men, come è ovvio, sono degli opportunisti, e quindi sono quelli che quando la convenienza c'è tradiscono tranquillamente. Però mi sembra che oggi il problema dell'Italia non sia davvero le questioni dell'Italia dei Valori. Quelle ci divertono, quelle ci divertono. Potremmo aggiungere un'altra questione molto seria che su cui si sta passando tranquillamente, cioè le gravissime parole dette ieri dal Papa. Il Papa ieri ha detto delle gravissime sull'educazione parole sessuale, contro la democrazia liberale, e cioè laica. Ha detto che l'educazione sessuale e l'educazione civica mettono in pericolo la libertà religiosa. No, l'educazione sessuale io lo sapevo, l'educazione civica no. Sì, pure l'educazione civica. Lei però fa il giornalista, le agenzie almeno... Ogni tanto mi distraggo, Flores. Male, un giornalista... Male, lo so, che devo fare? Mi distraggo. Non è che sono lì stalinista messo là... L'educazione sessuale e l'educazione civica minacciano la libertà religiosa, si rende conto dell'enormità. L'educazione... Però le volevo chiedere un'altra cosa, non mi impongo l'argomento adesso, non volevo parlare del Papa adesso. Dovrebbe essere una delle materie più importanti, perché educa ciascuno di noi quando va a scuola a diventare un cittadino consapevole, quindi gli dà l'ABC della convivenza civile. Va bene, adesso non mi faccia Flores, un attimo solo, pubblicità, torniamo subito. Allora, in realtà il Papa cosa ha detto? Non è che se l'è presa in generale da Flores con l'educazione civile. L'educazione sessuale e l'educazione civica. Allora proseguendo la mia riflessione, ha detto Ratzinger nel suo discorso sulla libertà religiosa: non posso passare sotto silenzio un'altra minaccia alla libertà religiosa. Io non sono d'accordo con Ratzinger, poi, per essere precisi. Un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni paesi europei, laddove è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile, in realtà si intendeva civica, che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono antropologia contraria alla fede e alla retta ragione. Non è che ha detto che in generale l'educazione civile o civica è contraria alla... Ho capito, quei corsi... I corsi di educazione civica in Italia ci sono da, credo, 40 anni. Dovrebbe essere, si faceva storia, quando io andavo a scuola c'era storia ed educazione. Sì, però il vero riferimento è l'educazione sessuale, è l'educazione sessuale, non è i corsi di educazione civica. Il riferimento all'educazione civica è puntualissimo, perché lei l'ha visto così. È scatenata una polemica contro il governo spagnolo che vuole introdurre l'educazione civica. Sì. L'educazione civica, guardi, sul modello di quella che c'è in Italia, cioè l'educazione ai valori della Costituzione. Ma secondo lei il Papa si schiera contro i corsi sulla Costituzione? Ma non è così, no? Si riferiva a quei corsi di educazione civica? Ma lei è veramente un bel tipo. L'ha appena letta la notizia. Ma ho capito, appunto, leggendola ho capito che non è contro tutti, contro tutti i corsi di educazione civica nell'universo mondo. Quelli che secondo il Papa parlano di certi argomenti, che affrontano certi argomenti, io non sono d'accordo, tra l'altro, però non si può dire che il Papa è contro i corsi di educazione civica in tutto il mondo, non è così. Il Papa ha spiegato che è contro l'educazione civica quando veicola dei valori che non sono quelli della morale naturale secondo il Papa. Ora, siccome in tutte le legislazioni praticamente tutte le legislazioni del mondo, per esempio, c'è il diritto al divorzio e in certe condizioni il diritto della donna ad abortire. Non è che si parla di questo in tutti i corsi di educazione civica, No, cioè, non si parla, questo non è che si parla di divorzio in tutti i corsi di educazione civica. No, questo fa parte del nucleo dei diritti di ogni persona. Beh, insomma, il divorzio in alcuni paesi, per esempio, non c'è, non è che sono posti i divorzi in pochi paesi, non nei pochi paesi in cui non c'è, non è che siamo contro. Il discorso del Papa è molto chiaro ed è: nelle scuole non si può insegnare nulla che sia in contrasto con la morale naturale, secondo quella che è la visione. Ma questo può darsi che abbia inteso questo, però non è che se... può darsi, perché se lei avesse letto come ho fatto, no, ma l'ho io letto, integralmente, l'ho letto integralmente il discorso che ha fatto il Papa e non questa frase d'agenzia. Questo concetto è ripetuto in continuazione ed è, d'altro canto, una delle cose fondamentali su cui insiste questo Papa dal giorno in cui è stato eletto Papa e su cui aveva insistito, l'ha fatto anche in un dialogo pubblico con me 10 anni fa al Teatro Quirino, quando era il cardinale del Sant'Uffizio, e cioè l'anatema su qualsiasi insegnamento che sia in contrasto con la dottrina morale. Ma è un Papa, Flores, è il Papa, è il capo di Stato estero, dovete rispettare la dottrina cattolica, non è che può dire che rispettate quella islamica, scusi. Non è che può dire preservativo libero il Papa, ma il Papa c'è delle regole, non è che possiamo chiedere al Papa di parlare diversamente da un Papa. Ha tutto il diritto di dire che a catechismo si devono insegnare queste cose, non ha nessun diritto di dire che ovvio. Nella scuola che è però tutti, Flores, lui auspica dell'ateo come del cattolico o del cristiano valdese che la pensa all'opposto del Papa, ma sulle cose si deve insegnare quello che vuole il Papa nella scuola. Ho capito, lui insegnano i valori della Costituzione. Lui su quello che si fa nella scuola deve solo tacere. Ma come può tacere? Ma lui parla in generale dell'insegnamento, auspica certe cose che poi non è che ha. E che fa? Lancia anatemi e chiede ai governi di obbedire e usa la forza di persuasione che ha nei confronti non solo dell'elettorato per imporre a chi credente non è il punto di vista cattolico. Vabbè. Perché le istituzioni democratiche e repubblicane seguire gli insegnamenti del Papa, cioè lì sta al libero Parlamento le indicazioni del Papa. Ma non è che non si può dire, ma non è che possiamo dire al Papa di non affacciarsi la domenica a casa sua. Sicuri. Io non mi stupisco che Ratzinger parli così, ogni democratico ha il dovere di sottolineare che il Papa ha una pretesa teocratica, che nella vita civile si viva secondo gli insegnamenti del catechismo. Beh, insomma, questo mi pare scontato. Gli insegnamenti della Costituzione. Ho capito, ma Flores, ma mi pare normale che il Papa voglia una cosa di questo tipo, cioè, ma che non è una cosa teocratica. Cioè, vorrebbe che ognuno di noi pensa che sia giusto che ognuno di noi viva secondo l'insegnamento del catechismo. Non mi pare una cosa. Non è che lo vuole imporre con la forza, con le armi, con le armate. Cioè. Le armi non ce le ha. Ma quando si pretende che la legge civile si adegui ai dettami del catechismo, questo in qualsiasi paese si chiama teocrazia. Ma ho capito, ma questo qua se la classe politica, come dice giustamente Parenzo, poi si adegua è un altro discorso. Poi, ho il traffico. Flores, la ringrazio molto. Grazie. Devo interrompere qui. Traffico. Eccoci qui, caro Parenzo, intervento lunghissimo di Flores, spaziato dalla Fiat al Papa. Io non vorrei che si equivocasse, però, perché io su Marchionne la penso come il chino, sui termini del contratto. Infatti questo volevo chiedergli, cioè un giuslavorista come senatore Ichino, un uomo di sinistra. Non è che dice che è stata violata la Costituzione sul diritto di sciopero. Dopodiché io penso che Marchionne sia un uomo di finanza e si sta comportando come un uomo di finanza. Questa è un'altra valutazione, secondo me non è nemmeno un uomo di finanza. Comunque, non come un uomo dell'industria. Adesso recuperiamo questi articoli del contratto di cui parlava, così per curiosità, di cui parlava. di cui parlava Flores. Moreno, andato, provincia Flores? Di Livorno. Vaticano? No. Se n'è andato. Moreno, provincia di Livorno. Buonasera. Sì, buonasera a lei, Cruciani. Dunque, io faccio un piccolo intervento, semplice, sul caso di Marchion. Dunque, il problema non è tanto lui, che io mi tolgo di cappello perché un italiano che quello che sta facendo a livello mondiale è da un esempio. Il caso, purtroppo, va ricercato, la chiave di tutto, nei settori statali e parastatali, dove succede di tutto, di più, in forma che tutti, quasi tutti i giorni ne veniamo a conoscenza di un lassismo, assenteismo, per cui la classe operaia, diciamo quelli che veramente lavorano, si sentono sopraffatti da un sistema che loro già il suo veramente lo fanno. Poi gli viene magari chiesto o un sacrificio o a concedere un minimo. No, Moreno, scusi, no, non ho capito nulla, scusi, non ho capito niente. Sì, ripeto, dunque, il caso del contratto della Fiat, per quanto riguarda il caso che sta succedendo, allora? la classe operaia si sente, non diciamo sopraffatta da tutto quello che sta succedendo su questo benedetto contratto, ma la classe... lo Stato, i dipendenti statali, i dipendenti pubblici. Ma lei sta dicendo il vero problema sono i dipendenti statali e non... No, hanno di tutto di più loro. Vabbè, ma quello che c'entra adesso con no, la Fiat? Scusi. Nel senso, chi lavora poi si viene magari, gli viene elargito, viene sottratto un qualcosa, è chiaro che hanno un modo di protestare ancora più, vedendo tutto. Gli scandali che succedono. Vabbè, non riesco ancora a capire il suo ragionamento. Fernando da Massa, buonasera, Massa Carrara. Fernando, pronto? Mi risponde? Sì, dica, buonasera. Sì, pronto, senta, io volevo intervenire per contestare il ragionamento che lei ha fatto sulla normalità dei guadagni di Marchionne, degli eccezionali guadagni. E così come di tutti i grandi guadagni di tutti i manager. No, io non ho detto tutti i grandi manager, ho detto che sì, Marchionne e la Fiat si prende la responsabilità, gli azionisti, cioè, sono cose trasparenti. Non è il problema quanto guadagna Marchionne, ha capito? Poi secondo alcuni dovrebbe ridursi lo stipendio in una situazione difficile. Ho sentito anche autorevoli economisti e altre persone sostenere che dovrebbe ridursi lo stipendio. Ma sì, dica Fernando. È importante intervenire perché questo è un periodo sul quale su certi guadagni, sulla liceità della richiesta, si sta pronunciando anche il Vaticano tramite la voce di altri prelati. Ma chi se ne frega, scusi, detto con tutto il rispetto, chi se ne frega di quello che dicono gli altri prelati sullo stipendio di Marchionne? Abbia pazienza. Perché gli altri prelati stanno tentando di abbindolare il gregge dei cattolici e sostengono la liceità della ricchezza in quanto darebbe modo ai cosiddetti ricchi di essere vabbè, al di là dei prelati, di cose, non capisco più niente. Fernando, no, dove vuole arrivare? Non capisco quello che vuole dire, non ho capito. Voglio dire che non è normale, non è giusto, non è lecito, non è etico che certe persone guadagnino certe cifre. Oh, perché ecco, anch'io ho lavorato 20 ore al giorno, non sono mai riuscito a guadagnare più di 2.000 euro, è vero, non ho avuto quelle responsabilità e quindi a queste persone va riconosciuto un guadagno maggiore. Ma maggiore quanto? Secondo le sue parole sembra che possano guadagnare quello che vogliono, ma siccome anche gli stati non possono stampare moneta all'infinito, perché lei sa che conseguenza ci sarebbe sul piano... Vabbè Fernando, mi sembra che lei abbia espresso chiaramente quello che pensa, cioè sta dicendo che certe cifre sono comunque scandalose, d'accordo. In parte ha ragione. Non lo so, boh. Sai perché? Una questione molto semplice, lo spiegava credo Massimo Mucchetti sul Corriere qualche giorno fa, perché i suoi compensi sono legati a delle stock option che risentono dell'andamento del titolo in borsa. Vabbè, come succede per tutti i manager, Sì, ma non sulla quantità e la bontà delle macchine vendute, ma semplicemente legate al titolo, all'andamento del titolo. Sì, ma se le macchine non vendono e la Fiat va male, viene cacciato, e questo è il prezzo che paga Marchionne, non viene cacciato. Allora, lo lasciano lì, se va male lasciano lì. No, un manager bravo è un manager che alla fine le macchine le produce, no? Per ora noi abbiamo un problema sulle macchine. Ho capito, ma se poi non andrà bene... E lui guadagna bene lo stesso. Ho capito, ma guadagna su un'altra partita che riguardano le stock option, l'andamento di borsa. Cosa c'entra? È che Cuccia e Romiti, è vero che erano un'altra stagione. Ma sono un'altra stagione. Non avevano azioni della Fiat. Invece lui ce l'ha, è un'altra epoca. È un'altra epoca questa qua. È un'altra epoca. Ma a me piaceva di più. Allora, che vuoi vietare? Che il fatto che i manager abbiano le stock options? Questo. Ma figurati se lo vieto. Ma dico che in un momento come questo, che un manager leghi il suo stipendio all'andamento del titolo e non di quello che produce, questa è una distorsione. Ma non lo so se sia una distorsione. Sono un comunista, può essere, non credo. Silvia da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io premetto che non sono una giurista, quindi lancio dalla sua radio e dalla sua trasmissione, che è molto seguita, questa cosa. Allora, Marchionne, non so se, e quindi metto in dubbio, lascio a chi è più competente di me, potrebbe essere accusato di abuso di diritto, abuso del diritto, che, se non ricordo male, è una figura giuridica prevista anche a livello europeo, cioè laddove l'esercizio di un diritto, che in altri termini è sumus iusum in iuria, se non ricordo male, per il diritto italiano. Guardi, però Silvia, non mi entri in discorsi giuridici, perché veramente io qui ci addormentiamo tutti. Io sono sicuro al 100%, no, al 100, al 200%, che non c'è nessun articolo di quell'accordo che violi la Costituzione. Non c'è nessun articolo che violi la Costituzione. No, ma non sto parlando di Costituzione, attenzione, io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che esiste una figura giuridica chiamata abuso del diritto, specialmente nel diritto. E vabbè, allora? Anche a livello europeo, se non ricordo male, è una figura giuridica adottata anche a livello europeo, dove l'esercizio di un diritto, se viola, e qui chiaramente un giurista può parlare meglio di me, io dico magari una media di cretinate, poi mi correggerà. Ho capito, ma adesso perché ci vuole parlare dell'abuso del diritto? Sì, io non divento pazzo. Perché mi... Cioè, non è difficile, no? No, ma magari non è difficile, io sono un... Cioè, non... diritto di poter fare ciò che vuole, ma potrebbe cozzare contro questo abuso del suo diritto di fare ciò che vuole. Cioè, questo il concetto che... No, non lo so, riguardo a Marchionne, ma non mi pare possibile una cosa di questo tipo. Va bene, Edoardo da Bologna, buonasera. Buonasera. Ma io semplicemente mi dicevo stupito del comportamento di Marchionne, in quanto... Non penso che si possa ridurre il problema della competitività di un'azienda in Italia al solo problema delle pause o dello sciopero dei lavoratori, in quanto il problema più vasto, sappiamo che i problemi di competitività dipendono dal costo del lavoro, dalle tasse sul lavoro, dalle tasse per le aziende, dalle infrastrutture, per cui adesso si sta puntando tutto il problema della competitività delle aziende italiane sul problema del contratto, e penso che sia limitante, per cui mi trovo un po' stupito da questa guerra che si è aperta semplicemente per quanto riguarda il contratto, e penso che nelle multinazionali, anche americane, si punti molto a motivare la forza lavoro, gli impiegati, per avere rendimenti più alti, per avere scusi, ma secondo lei quelli che hanno firmato e quelli che magari voteranno sì, che cosa sono? Lo fanno solo sull'onda della paura, del terrore di perdere il posto di lavoro? La sensazione è quella che domani andranno a lavorare con la paura, con il fatto che hanno firmato un contratto individualmente che li tutela meno di un contratto collettivo. Ma non è vero che sono tutelati meno, ci sono... Ma non è vero che sono tutelati meno. Cioè, non... mi sembra limitante il fatto del creare una contrapposizione così netta. La contrapposizione netta si crea perché quando uno in Italia vuole smuovere delle piccole logiche e delle logiche immobili, c'è la rivoluzione, c'è la rivolta contro chi vuole modificare anche solo piccole cose. Borsa. Le zanzare di casa mia si nutrono di... Eccoci qui, torniamo in onda, caro Parenzo, 800240024. Una notizia drammatica da darti, Che notizia devi dare? Pare che il mago Telma si voglia candidare a governatore della Liguria. Ma davvero? È terribile. Ma come ti è arrivata questa notizia? Mi è arrivata perché in questo momento io ho il computer mio aperto, sì? E un tuo radioascoltatore mi ha segnalato su Facebook, in presa diretta, sì? Dicendomi che ne pensi, c'è un'intervista di questo cosiddetto divino che ha detto che di dimostrarsi disponibile a candidarsi a governatore della Liguria. Io do solidarietà a tutti i Liguri in questo momento. D'accordo, ma insomma c'è tempo ancora, si è votato. Ma tutto è terribile, Ma è tutto finito, questi cani da ovunque, prima quei radicali, invece sono disponibile, e anch'io adesso voglio fare un appello anch'io, sono disponibile a fare il direttore del TG1, mi rendo disponibile. La cruda verità, se mi guardi ti giuro mi confondi, ti sento respirare. Ma insomma, se ci fosse davvero una limitazione del diritto di sciopero, una violazione della Costituzione, come dice Flores, ma come avrebbero potuto firmare gli altri sindacati? Ma mi sembra una cosa assurda. Si facessero critiche più serie, non questa cosa qua della violazione del diritto di sciopero, su. Non è una critica seria, al di là di quello che sostiene Flores, dai. Ah, io l'ho detto come la penso, io la penso come Ichino, che il diritto del lavoro è in evoluzione e che quello lì è un contratto legittimo che è stato fatto tra l'azienda e i lavoratori. Non c'è nulla di... Vabbè, Massimo da Pesaro, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Allora, io penso che Marchionne come imprenditore non sia questo granché. Io parlando nel mio piccolo, io parlo di una provincia di Pesaro, quindi molto piccola, però ci sono delle realtà come le aziende, come faccio i nomi, Edica o l'Eden Viaggi, piuttosto che la Xanitalia, che sono aziende a cui gli operai sono molto legati, tant'è che l'Edica è anche risultata come una delle aziende migliori dove stare, ma gli amministratori e i dirigenti non si sognano di fare un certo tipo di ricatto, se la vogliamo dire tutta, perché alle spalle c'è un progetto che nonostante in periodo di crisi ha fatto alzare i fatturati delle aziende. Ho capito, ma ogni azienda è diversa, ogni situazione è diversa, ma non si possono paragonare. Qui si tratta di saper fare il proprio lavoro. Allora, Marchionne non sa fare il suo lavoro, questa è la sua opinione. Per me no, perché il costo dell'operaio su un prodotto può essere, vario in base alla percentuale del prodotto, ma comunque sì, anche le cappe hanno i loro costi, per dire, di industrializzazione e di catene di montaggio, tanto quanto può avere la Fiat. Il costo dell'operaio è del 7% ed è una cazzata. Quello che sta facendo, mi scusi il termine, è una cazzata, ma quello che sta facendo Marchionne, cioè dopo aver fatto questo tipo di contratto che alcuni hanno firmato a forza, perché se c'hanno il mutuo da pagare è logico che uno accetta tutto, io stesso se mi ma non c'è solamente il fatto di mettere un contratto nuovo, c'è l'uscita da un certo mondo e allora facciamo che tutti accettano il contratto della Fiat, ma poi dopo, ma chi ha detto tutti? Perché non tutti dà i risultati che deve che dà, tipo ad esempio la Peugeot con un amministratore che prende tanto meno del signor Marchionne, ma che il gruppo Peugeot ha se non avrà risultati sarà la Fiat a chiuderlo stesso. Scusi, tanto vale chiuderlo adesso. Massimo, se non avrà risultati il management, la proprietà della Fiat per andare a decisioni su Marchionne se vuole, ma insomma, sì, ma Marchionne è una persona, gli operai sono tante altre. E allora io non ho capito, ma perché adesso gli operai cosa succede? Vengono messi gli operai di Mirafiori o di Pomigliano, vengono messi in un torchio e tritati ogni giorno rispetto a come era prima? No, voglio capire, Massimo. No, sinceramente lavorare a catena è un lavoro abbastanza impegnativo. Su questo non c'è dubbio, Cioè, un conto è che Marchionne viene qua e fa 3.000 storie perché in Italia non c'è la possibilità di progettare, cioè di avere dei progetti concreti, ma sta sollevando un vespaio per una cosa che è veramente risoria. A lui di fare un contratto come c'era prima, come c'è adesso, onestamente, a livello dell'azienda, non gli cambia una merita cippa, è quello il discorso. Io sono contento di quello che ha fatto la Chrysler e dei soldi che ha preso dagli Stati Uniti, perché quelli, quando arriverà il discorso di saldare quello che gli è andato, non è che la mandano tanto blando come abbiamo fatto in Italia. Va bene, grazie. Gennaro, che li ha messi il governo americano, Gennaro da Napoli, buonasera. Gennaro, mi sente? Buonasera, sì, la sento, dottore. Buonasera. Dica. La ringrazio per avermi contattato. Volevo intervenire, in effetti io ho 39 anni, lavoro da 20 anni. In 20 anni non ho mai fatto un giorno d'assenza per malattia e non sono Superman. E non capisco tutte queste persone che si lamentano per queste cose, che stanno continuamente malati. Io conosco tante persone di Pomigliano che lavorano e che sono persone del bene e tanti altri invece che se ne approfittano. Si mascherano dietro queste cose, dietro i sindacati, eccetera, per fare i fatti loro. Magari la mattina vanno a fare i piastrellisti o gli idraulici, si danno malati e fanno la doppia e anche la tripla attività. Poi volevo dire un'altra cosa, sempre perché io penso che Marchionne è una persona che deve essere difesa da questi qua. Proprio a Napoli, lo sa benissimo, ci sta l'esercito che sta alzando la spazzatura. Niente di meno, con l'esercito che c'è la spazzatura ci stanno la metà degli spazzini, 3.000 su 6.000 malati. Sì, sì. Allora bisogna prendere dei provvedimenti, magari Forse, ma non so adesso, io non ho letto precisamente qual è l'accordo di Pomigliano, non so se magari ci sono delle cose da cambiare, allora? Ma il criterio da cui partire per cambiare la situazione deve essere esaminato attentamente, non si può sparare a zero situazione, perché secondo me lui deve essere difeso. Va bene, grazie. Oh Parenzo, dell'utri di ieri ce lo siamo dimenticato. Tanta roba, dell'utri di ieri l'abbiamo dimenticato, protagonista. No, è una qui. Cosa clamorosa, guarda, protagonista, hai lavorato qui. A lungo per averlo in studio. Protagonista qui alla Zanzara, iniziamo subito su Marchionne, appunto, via, Marchionne. Marchionne, secondo lei che cos'è? Un innovatore? È un grande dirigente. È uno che dovrebbe stare anche in politica, sarebbe uno straordinario personaggio, perché persegue le cose, ha le idee, innova, le persegue e finora le ottiene anche, tiene anche risultati. Mondadori, tutti di sinistra. Da Mondadori sono tutti a sinistra, dalla Mondadori. Come sono tutti a sinistra? Tutti a sinistra. E si sono opposti alla pubblicazione dei diari, Mondadori? Non opposti, hanno motivato che secondo loro... Avevano un legittimo impedimento. Avevano, si sono preoccupati di farlo, diciamo così. Tant'è vero che io apprezzo molto la Bompiani che ha avuto il coraggio di farlo. Lì devo dire che sono stati coraggiosi. La galera, la paura della galera oppure... No, leggerò per 7 anni. Quando pensa al carcere, sì. È un pensiero che ha oppure no? Quando penso a questa cosa dico, ma come faranno a darmi 7 anni di galera per nulla? Casomai quando penso al carcere penso, caspita, quante cose da leggere che ci sono. Pensi 7 anni, mi farò una cultura della Madonna. Quindi penso che c'è sempre un fatto positivo anche nelle cose negative. E poi, siccome mi sono candidato per sconfiggere i magistrati o comunque per proteggermi da quella che lui chiama, da quella che chiamo la persecuzione giudiziaria, persecuzione politica, mi ricandiderò sempre. Io mi ricandido certamente, perché no? Finché sono vivo mi ricandido. È imputato. Finché è vivo è imputato. Se non fossi imputato, francamente dichiaro che non mi candiderei affatto. Io sono indagato per questioni politiche. E poi la politica, quella di questi giorni, Tremonti non è nessuno senza Berlusconi. Tremonti senza Berlusconi non sarebbe Tremonti. Non so se mi quanto spiego. Vale elettoralmente Tremonti, secondo me poco. Ma guardi, può valere proprio per questa sua immagine di rigore che si è data e che può avere dei, però senza Berlusconi ma senza Berlusconi non va da nessuna parte. No, certo, ma anche la Lega dove va senza Berlusconi? Scusate. Beh, Fini ha le sue ragioni, ma non ha ragione. È rimasto deluso da Fini oppure ha sempre pensato che non fosse affidabile? No, io deluso, sì. Diciamo ha le sue ragioni, però non ha ragione. E va bene, caro Parenzo, 20:41, 800 24 00 24, al TG della 7, Renzi dice: io sono dalla parte di Marchionne, dalla parte di chi sta investendo nelle aziende quando le aziende chiudono, dalla parte di chi prova a mettere quattrini per agganciare anche Mirafiori alla locomotiva America. E beh, insomma, però, a me piace sempre di più sto Renzi. Cioè... E infatti piace sempre di meno a quelli del PD, capisci? Piace meno a quelli del PD, adesso non si può generalizzare, a qualcuno nel Partito Democratico, a molta gente della sinistra, ma è quello che deve fare. Sono dalla parte di Marchionne, dalla parte di chi sta investendo nelle aziende quando le aziende chiudono, dalla parte di chi prova a mettere quattrini per agganciare anche Mirafiori alla locomotiva America. Andrò alla direzione di giovedì, ma spero che Bersani non chiacchieri di aria fritta ma dei problemi degli italiani. Ecco. Non chiacchieri dell'inciucio Confini ma del futuro del PD. Il PD è credibile se smette di inseguire i falsi problemi. Provi concretamente a dire ok, Berlusconi ha fallito, ma dicendo agli italiani quali sono le nostre soluzioni per ripartire. Ecco, ma Renzi, oltre a dire questo, a un certo punto dovrebbe decidere anche cosa fare nel suo futuro. Però. Sì, sì, ma deciderà, a breve no, deciderà. Io lo dico perché continua a prendere delle posizioni interessanti e, come dire, importanti per il suo PD. Però è lì a fare il sindaco di Firenze, si mettesse un po' in gioco anche lui, no? Cioè, sfidi Bersani sul campo aperto delle primarie, no? Bersani, vendalo, chi per non so, tutti questi. Sì, sì, no, per carità, ma quando sarà no, il tempo magari, quando sarà il tempo deciderà, non è che adesso deve dire. Però non è, qual è il tempo? Quando è il tempo? Il tempo è adesso, quando si vota, tra un anno, tra 2 anni, tra, non so, cominci, come dire, a creare una competizione interna di via, anziché continuare di no, ma io faccio il sindaco, però questo è sbagliato, questo è sbagliato, questo è sbagliato, capito? Sì, è evidente che non si può continuare fino all'infinito, prima o poi bisogna decidersi. Lui è ogni volta dice no, ma io per ora faccio il sindaco, no, ma io do solo consigli. Come consigli? Ogni giorno dicono che è sbagliato, che sbagliano, ma sono consigli, no? Giovanni da Matera, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io ho chiamato, appena ho sentito Borghezio che insomma è lucubrava nei suoi discorsi abbastanza, come dire, deliranti, e mi sono anche meravigliato che si desse spazio sulla vostra radio a un personaggio del genere. E non è nemmeno la prima volta, insomma. È quello il problema. Si figuri, non è la prima volta. Si persevera nell'errore, si persevera, certo. Purtroppo, quindi che dobbiamo fare? Lui è diabolico, Cruciani. Sono diabolico, sì, sono diabolico. Salvo poi, diciamo, prendere le parti del Papa quando... Ma non ho preso le parti del Papa. Vabbè. Ho detto di non essere d'accordo col Papa sull'educazione sessuale, mi sembrava una polemica quella sull'educazione, come se il Papa volesse imporre l'educazione civica nelle scuole italiane, insomma, non... Non mi pare che sia così, insomma. Comunque. Se potesse, lo penso. Può darsi che se potesse, come tutti. Sì. Se avesse veramente una corsia privilegiata. Non mi pare che le scuole italiane, in particolare le scuole pubbliche, siano, come dire, il presidio dei cattolici italiani, insomma, non sono presidiate dai cattolici. Insomma. Quando si entra e si vede il crocifisso un po' dappertutto. Ma quando mai? Ma che c'entra la presenza del crocifisso? Si sollevano obiezioni da destra e da sinistra, insomma. Guardi, un minimo di presidio c'è. Ma che vale presidio? Comunque, io chiamavo soprattutto per quelle bestialità che ho sentito dire a Borghezio. Cioè, da meridionale mi sento profondamente offeso per quello che dice, cioè il fatto che sia un peso morto. Qui c'è gente che lavora dalla mattina alla sera, da 10 anni, e sentirsi queste cose da... personaggio del genere che fa convegni in giro per l'Europa con il tema del neofascismo è veramente deprimente. Va bene, grazie, traffico. Comunque, no, volevo comunque darvi atto del fatto che poi, diciamo, almeno c'è stato un intervento ragionevole da parte di Flores e quindi si è controbilanciata alla grande. Ma non c'era niente da controbilanciare. Grazie, traffico. Sette 800 24 00 24. Enrico da Udine, buonasera. Dica. Io proporrei l'ingegner Marchionne al premio Nobel per l'economia, perché è stato pragmatico, deciso e ha applicato l'ABC della gestione industriale. Purtroppo o per fortuna bisogna confrontarsi col mercato in qualsiasi settore industriale o commerciale, e bisogna avere dei prezzi competitivi per riuscire a vendere in Italia, all'estero, nel mondo, da tutte le parti. Per avere dei prezzi competitivi bisogna avere dei costi diretti, ciò significa materie prime e manodopera tali che mi consentono di avere dei prezzi competitivi. Sì. Per cui per forza bisogna cambiare qualcosa, non si possono avere dei paletti che ti vincolano ad avere dei costi che conseguentemente ti gettano fuori dal mercato perché non riesci a essere competitivi, per cui bisogna aumentare l'efficienza della produzione, diminuire l'assenteismo e svincolarci da certe cose che potevano andare bene negli anni 60. Enrico, lei ha perfettamente ragione. Tra l'altro, Parenzo, la questione del diritto di sciopero, se non leggo male, riguarda le penalità per i sindacati che dichiarano sciopero durante gli straordinari. Mi sembra che sia questa la questione. Certo, una volta che l'azienda, ovvio, chiaro, ha concordato di fare degli straordinari, lì non si può scioperare. Infatti non è che c'è una limitazione al diritto di sciopero, comunque ad eccezione di motivi di gravità assoluta legati alla sicurezza del lavoro. Cioè, ci sono comunque delle deroghe. Chi vive la contraddizione più grande in questo momento è paradossalmente la CISL, perché se la CISL applicasse il contratto che è stato, come dire, firmato con Marchionne al pubblico impiego, lì sì sarebbe la vera rivoluzione. Ma la CISL lo può fare perché ha tra i suoi iscritti, per la maggior parte, iscritti del pubblico impiego. Questo è l'altro grande paradosso di tutta la vicenda Marchionne, per cui loro sono innovatori nel privato, la CISL, lo sono un po' meno forse nel pubblico. È un tema che ti butto lì così. Va bene, andiamo a... Una cazzata? No, non lo so. Può darsi che sia così. Se ma... applicassero il contratto della Fiat al pubblico impiego, questo sì sarebbe rivoluzionario. Ecco perché Brunetta, cioè, volevo ricollegarmi a quello che diceva Brunetta, cioè la rabbia un po' di Brunetta, cioè, accoppiato da me, è che Brunetta non è riuscito a farlo questo fino in fondo. Beh, perché è molto, è molto più... non ci sono le regole della è Fiat. Molto più complicato, naturalmente. Certo. Angelo, provincia di Taranto, buonasera. Buonasera, la ringrazio per avermi chiamato. Dica. Senta, io vi ascolto da parecchio tempo. E le prometto che non parlo né di Berlusconi né anche di Marchione, perché vedi che va un po' su. Dunque, ieri sera dell'Uti, io penso che aspettiamo la sentenza prima, se non la persona, uno può chiamare e può stare tutta la giornata a dire quello che vuole. Vengo pochi secondi, Borcheggio, l'ora che la smetta, lei dovrebbe tagliare completamente il microfono a questa persona. E l'altro signore Bosio. Angelo, guardi, sento pochissimo la sua voce. Lei dice che non dovevamo intervistare Dell'Utri. Vabbè, è una delle critiche che abbiamo ricevuto. Per carità, non voglio entrare in disaccordo con lei, anche se è evidente io che sono totalmente in disaccordo. Cioè, totalmente. No, ma non voglio entrare in discussione, non voglio intavolare una discussione su questo. Non si possono intervistare solo le persone che ci stanno simpatiche, non intervisteremo nessuno, se no. Non capisco. Angelo dice: aspettiamo la sentenza. Poi, se è condannato, invece no, perché a quel punto è provato che è un che è stato condannato per concorso esterno. Non c'entra nulla, Angelo. Ma se potessi, intervisterei chiunque, anche Rina, ma meraviglioso. Cioè, chiunque, voglio dire, ma dov'è? Se una persona è interessante ed è notiziabile, perché non bisogna intervistarla? Ma che ragionamento fanno? È una roba ideologica che viene detta. Va bene, Gianni da Chieti, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì? Sì, dica. Allora, su Borghezio io non l'ho mai potuto tanto sopportare in quanto lui sputa dove mangia, ma questa è una riflessione proprio solamente di educazione. Io sono di Chieti, vabbè, sono in viaggio, eccetera, eccetera. Borghezio è solo una questione di educazione, sputa dove mangia, mangia da Roma, oddio. E poi il personaggio, quello che è Borghezio... Ma da Roma, per adesso da Strasburgo, insomma, magari indirettamente anche da Roma, mangia, cioè prende lo stipendio di parlamentare europeo, comunque. Vabbè, ok. Borghezio... a proposito degli appalti che ha detto di Aquila, eccetera, eccetera, gli appalti di Aquila e le aziende del nord che non prendevano, a parte che ha chiamato quello che ne sapeva meglio di me, comunque era gestito dalla Protezione Civile, la maggioranza degli appalti in primis. E quando un mio amico che ha un'azienda è andato lì il giorno dopo del terremoto per mettersi a disposizione, la Protezione Civile ha bloccato tutti, lui come gli altri, ha detto no. Chiamiamo noi e sappiamo noi. Detto questo, gli spazzini di Napoli, no, chiedo scusa, i rifiuti di Napoli, Borghezio fa la sua bella uscita, ma attenzione, sicuramente i rifiuti di Napoli dati da in mano la camorra, eccetera, eccetera, ma Borghezio ha dimenticato quel piccolissimo particolare, ma proprio quel particolare insignificante, che il Nord per anni e anni ha versato immondizia, il Nord, il suo grande Nord, io comunque ci lavoro, ci mancherebbe, diritti e doveri, ha versato immondizia al Sud, perché il Nord non sapeva dove. Va bene Gianni, vecchio argomento. Sì, Carmelo da Bologna, buonasera, velocemente. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Io ho raccolto la sua provocazione che ha lanciato qualche minuto fa da veramente grande intrattenitore. Non capisco niente, Carmelo. Roberto da Roma, non si sente, si sente male. Buonasera. Roberto, dica. Buonasera Cruciani, buonasera. Tre appunti. Il primo su Marchionne, si è mosso bene, sta sbagliando ora, nel senso che le ragioni di competitività vi sono, le ragioni di internazionalizzazione del marchio vi sono, sbaglia quando radicalizza. Lui è comunque a capo di un'impresa che è comunque sociale. Non è ma un che vuol dire? Fatto. Radicalizza? Che vuol dire radicalizza? Radicalizza perché oggi potrebbe riconoscere comunque lo spiraglio che vi è alla rappresentatività sindacale. Sì, ma lasciamo perdere i discorsi sulla rappresentatività sindacale che sono noiosi. Cioè, no, non... la rappresentatività, e poi ci sarà lo spazio per la rappresentanza di chi non firma il contratto, si troverà il modo per farlo. Poi mi scusi Cruciani, non sono noiosi. Sì, sono noiosi, noiosissimi. No. Anzi, da domani non voglio più parlare di Marchionne, perché no, stasera abbiamo parlato tutto il tempo di Marchionne. Sì, questo lo so. Una roba drammatica. No, lo so, la cosa che sto riflettendo non è tanto perché non potrei esprimere un giudizio su Marchionne. Il punto vero è che noi non riflettiamo sul fatto che vi sono comunque delle ricadute sociali. E vabbè, ci sono delle ricadute sociali in tutti i paesi, ci sono delle ricadute sociali in tutti i paesi, ci sono delle crisi della gente che perde il lavoro. In Italia abbiamo il massimo della cassa integrazione. Le ricadute sono rispetto alla radicalizzazione. L'impresa non è un fatto privato. L'errore che si fa anche vabbè, non è un fatto. Dunque, quali sarebbero le ricadute? Le ricadute quali sarebbero secondo lei? Le ricadute è che con le contraddizioni che si esasperano e quindi sì, siccome Marchionne esaspera, allora si può trovare qualcuno che gli spara. Qual è il suo ragionamento? No, assolutamente. È proprio quello che io non vorrei mai. E allora è colpa di Marchionne, però. È anche colpa di Marchionne perché radicalizza. Lui sta vincendo, lui sta vincendo ora e sta facendo bene per le ragioni di impresa. Allora? Se si esaspera nei confronti del sindacato escluso quando una porta, come dice la Camusso, è possibile riaprirla, lì non dovrebbe dire a me non me ne fotte nulla perché io sono pronto ad emigrare. Ma non è che ha detto non me ne fotte nulla dei sindacati, ha detto semplicemente che se non hai il consenso all'interno di una fabbrica ci sono tanti posti dove investire. Va bene, Parenzo, dobbiamo chiudere questa sera dove mi sono annoiato tremendamente. Ci sentiamo domani. Perché? Annoiato in maniera pazzesca. Ci sentiamo domani 18:30. Cambio tutto domani. Ciao. Bacio, bacio. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.